Guardati un film e un porno e non sfruttare la tu donna. Tu li vedi film porno, Mauro? No, mi aveva regalato tre o quattro un vecchietto, però mi avevano annoiato, li ho dati a un ragazzo. Più porno lo guardi, no? No. Non ha no, tempo, per carità, non ne frega niente. Ma no, preferisco farlo che guardare. Cos'è ma che ti eccita di più di una donna? Il culo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ma no, io ero qui tranquillo con mia moglie, ascoltavo la trasmissione, mi sento dare dello stronzo che abita all'estero. E perché voto? Ma vergognati! Lei è un maleducato, Parenzo. Lei insulta i suoi connazionali sulla base di niente, sulla base di stereotipi. Lei ha insultato i cittadini italiani che abitano all'estero. Sì, scusi! Peraltro sono un migrante economico. Lei è un razzista. E allora, lei è un razzista. Scusa, dove le paghi le tasse? Giuseppe, dove le paga le tasse lei? Dove le paga le tasse? Dove le paghi le tasse? Without representation. Dove paga le tasse lei? Io abito in Svizzera, le pago in Svizzera. Voti in Svizzera, non ci rompe i coglioni a noi. Quando avrò la cittadinanza sarò ben felice di votare in Svizzera. E allora non voti da nessuna parte che non ci mancherà il suo voto. Roberto da Trieste. Ma questo lo dici te, stronzo. Sì, senta, io sono un cittadino sudtirolese, ho anche la cittadinanza tedesca e volevo dire che adesso più che mai auspico l'indipendenza del Sudtirolo, perché non è possibile che in un paese civile si debba applicare lo ius soli. Io non sono italiano, cosa pensi tu? I sudtirolesi sono italiani, i sudtirolesi sono di etnia tedesca, sono di razza tedesca, non sono italiani. Dove la piantiamo? Ma io direi qui, scarichiamo qui. Qui? Sì. Ti attento un attimo. Ecco. Basta fegando mal! Italiani sempre rumore, sempre cantare, chitarra e mandolino! Silenzio! Qui dormire, tedeschi noi! Se non farai espellere da campi! Noi tedeschi, noi italiani mandolino! Zitto! La smetta con quel mandolino, altrimenti ci cacciano! Come iniziamo qui? Iniziamo da una frase che vi faccio ascoltare del signor La Russa. Il signor La Russa che dice: con lo ius soli diventiamo la sala. Io vorrei subito spiegare che lo ius soli è quella famosa legge che attribuisce la cittadinanza italiana se uno nasce in Italia dopo 5 anni che va a scuola, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, la Russa dice: non è uno ius soli. Vabbè, diventiamo la sala parto dell'Africa. No. La sala parto della. Che immagine? Signor La Russa. Sì, ho capito, La Russa. Andiamo certo. Con La Russa, vai. Allora, un bambino nato in Italia, da genitori, anche la madre, residente da tempo in Italia, non che la madre, diventiamo la sala parto dell'Africa, altrimenti la sala parte dell'Africa diventiamo. Arrivano qui, partoriscono, trovano uno che dice che è il papà, eccetera. Sala parte, parto parte, signor La Russa. La Russa Vabbè, è forte, ragazzi. Però sì, La Russa è fortissima. Sì, solo vabbè. Quando parla per questo accento vale la pena. Solo quando pronuncia favella. Sì, sì. Allora, Forchielli, signor Forchielli. Sì, signor Forchielli, sì, come sapete, sì, è un analista di cose orientali, vive non so dove, a Hong Kong. Grande intenditore di figa, diciamo la verità. Sì, frequentatore anche di chat. Frequentatore di chat. Questo io non lo so. È anche abbastanza pubblico. Frequentatore di chat, da quello che si sa, da quello che è venuto fuori. È un economista, è un imprenditore importante. Economista, non lo so. Ed è un uomo che ha una visione, soprattutto. Ma adesso è una visione. Ha una visione. È un magnifico cazzone. Perché no, beh, quello anche. È splendido, magnifico cazzone. Ma ha una visione straordinaria. Lunga. Io lo adoro, signor Forchielli. Ha una visione lunga, bisogna dire. La visione lunga, no, cioè. Adesso la visione lunga, sì, non lo so. Comunque, quella che noi chiamiamo la visione, noi della maggioranza dice Forchielli: l'Italia è un paese fottuto. E dove l'ha detto? La reghettina. il paese, come l'Italia è un paese fottuto. Eccolo. L'unica speranza sono gli immigrati. Siamo un paese con un calo del... L'unica speranza sono gli immigrati. Bravo, hai ragione. Siamo nella merda, gli unici rimasti sono i figli di papà. Vabbè, questo mi sembra però, francamente, è una cazzata. È una visione, no. È una cosa del cazzonismo di Forchielli. Dunque, no, va benissimo. Ma mi pare un uomo che ha girato il mondo e che conosce le cose. Ma che vuol dire, gli unici rimasti sono i figli di papà? Ma non è vero, dai, è una minchiata. Nemmeno tu puoi credere una cosa del genere. È stupendo che lo dica, è stupendo, ma va bene. Ma non è così, non è che gli unici che sono rimasti in Italia sono i figli di papà. Dai, non diciamo cazzate, tu, dai. Facciata, sì. I buoni sono andati, rimangono i figli di papà che vivono con la pensione del nonno. Cosa vuole? Un paese in calo demografico non è mai venuto fuori dalla merda. Noi nella merda ci siamo fino al collo. L'unico è provare con gli immigrati, capito? Allora, il qui presente David Parenzo, conduttore temporaneo della trasmissione Aria che tira, sulla 7, oggi ha detto la sua su Monti, finalmente anche in televisione, lo ha già detto qua più volte, dunque nulla di nascosto naturalmente, però ha detto una cosa che attirerà molte ire da parte soprattutto non solo di Mauro da Mantova, che ormai è scomparso dal tuo orizzonte, mi pare, no? Non esiste Donato da Varese, cioè nel derby dei miserabili, chiaramente è come mettere l'Albino Leffe contro il Milan o altre squadre secondarie, no? Non esiste Mauro da Mantova, non esiste più, è scomparso. Esiste, dice Parenzo, Donato da Varese. Dice Parenzo, Monti è un grande premier che ci ha salvato in un momento di crisi. Ma questa è una cosa anche banale che ho detto. Questo davanti allo stesso Monti, peraltro. Sentiamo. Sì. Bene. Allora, Aldo Alatri ci fa un blob di Mario Monti, è stato per molti un grande premier italiano che ci ha anche salvato in una situazione di grande crisi. Così tanto per attirarti qualche simpatia da parte degli ascoltatori della zanzara. Tu, per attirarti, ma hai fatto molto bene, ma poi metterlo anche nella sigla iniziale. Ma quello che ti voglio dire è che questo qui però non è un mistero. Cioè, non mi pare di averlo. L'ho detto anche in televisione. Diciamo che le interpretazioni su Monti sono diverse, ma non c'è solo Prodi. La tua, non c'è. Anche di Prodi. Senti, come però ti faccio sentire una cosa. A un certo punto, con grande scandalo, in un programma di Radio 1 che si chiama La Radio Ne Parla. Interviene un nigeriano. Un nigeriano, beh. Ora, ovviamente uno dice: vieni dalla Nigeria, probabilmente sei profugo, probabilmente sei uno che ha, no, che ha attraversato il Mediterraneo perché sei in cerca di fortuna, sei uno che è oppresso, i cui diritti sono calpestati. Senti questo nigeriano che interviene a Radio 1 con grande sconcerto di tutto il buonismo presente. Pensa Alessandro Gassman, senti questo nigeriano, Alessandro Gassman, che sei così buono, che fai l'uomo immagine per i rifugiati, per organizzazioni dell'ONU, eccetera, eccetera. Senti questo nigeriano, ti prego, sai un momento nella tua lunghissima giornata, se vuoi comprendere anche, se vuoi sentire anche un'altra campana oltre la tua, senti. Sentiamo un messaggio WhatsApp audio che è arrivato di un nigeriano. Buongiorno, con tanta amarezza sto ascoltando vostra trasmissione. La verità è che queste donne non fuggono da nessun guerra. Questa è un racket di prostituzione che anche tanti di loro sanno già quello che stanno venendo in Italia a fare. Non c'è nessun guerra in Nigeria. Nigeriani non deve essere accolto come rifugiati. Io sono un nigeriano che abito qua in Italia. Grazie. Ragazzi, la realtà è una sola. La realtà è non è, cioè qui non è questione di essere di destra, di sinistra, di centro. È che è chiaro che ormai portano qui di tutto. Non vi lasciate incantare quando vi fanno vedere i bambini, quando vi fanno vedere le donne così. Sono una minoranza. La maggior parte vengono qui e sanno già perché sono qui. Per esempio questo che abbiamo sentito, che dice: le donne che vengono qui sanno già che vengono a fare le puttane. Purtroppo, io dico, ma è così. C'è un grande traffico dietro. Un grande traffico, non è solo disperazione, miseria. No, non c'è solo quello. Non c'è solo quello, ho detto, solo quello. Vergognati, testa di cazzo, guarda che sei altro. Okay. Esatto. Lo scontro Sabaeta marcato. Dove? Fammi ragionare un secondo. La quinta colonna. Sabaeta, campo rom, marcato, Lega. Sabaeta che era là. Sai, tra l'altro, Sabaeta ho scoperto che ha un figlio che si chiama Rambo. Giuseppe. Rambo. Rambo. Rambo. Beh, vabbè. Come mai secondo te? Come Rambo mai sarà, secondo Rambo te? Sarà... Come no? mai come secondo mai? Te? Prova Rambo. A indovinare. Ma come... non lo so, gli piace la Rambo. Che ti dai, devo dire? Su, dai, su. No, perché uno non mai in carcere perché si chiama Rambo. Ecco, appunto. D'accordo, appunto, però. Sapete che voleva fare la golf dal nostro ex direttore, se non ricordo da male. Da Napoletano, no? Sì. Sì, voleva fare la golf lì. Poi la cosa non è andata in buca. No, non è andata in buca. Non capisco perché, però, non sia andata in porto, diciamo, quell'operazione della signora Recupero Sabaeta, si chiama. Che fatturato ha lei, signora? Vedi qua. Che lavoro fa lei? Mia famiglia. Chi vuole questa cosa? No, no, mi sto bene. Stato di famiglia, c'è che ho quattro figli. Amidovic Sabaeta. Che lavoro fa? In vicolo Savini 63. Abita. Poi, Amidovic Rambo. Mio figlio. Rambo. Amidovic Bairo. Mio figlio. Amidovic Alio. Mio marito. Ecco, sono tutti. Che non hanno un precedente penale. No, è che lavoro fanno? Scommettiamo che non hanno uno precedente penale. Viva Ocampo con i topi, senza acqua. Ma perché un mese. Ma scusi, ma se lavorano, perché vivete nel campo con i topi? Cioè, non avete i soldi per... Non andiamo, che viviamo con 500 euro. Quanto? 500 euro al mese. Tutti e due? A tutta la famiglia siamo. No, ma quanti è che no, non ho capito quanti lavorano per... Due. Due lavorano. Due figli. E tutti e lavorano. C'ho nipoti che li manteniamo. Ah, sì. Dunque, ragazzi, non è che può credere che questi qua campano con 500 euro, dai, su, ma è chiaro che tutto però, è ma meno. Che cos'è, un interrogatorio della questura? No, cioè, ma Marcato, la cosa fa? No, la ma maggior parte di questi fanno della questura. Ma io infatti non capisco perché Sabaeta e tutte queste altre vanno in televisione, io è questo che ancora continuo a non capire. Io davvero è questo quello che non capisco. Comunque la cosa incredibile anche un'altra è che il terremoto da Amatrice, i dati sulle macerie, 93% delle macerie ancora per terra. 93% sì, delle bravo, macerie. Questa è una cosa molto giusta. Pochissime che hai detto. Case che sono state bravo, casette bravo. Che sono state consegnate, solamente una piccola minoranza. Burocrazia vergognosa. Bravo. Corona bravo. Contro Purgatori. Sentiamo, Purgatori, il giornalista Purgatori, sentiamo. Ad Amatrice, facciamo finire Amatrice sorte le case, vergognatevi. Ad Amatrice tirano sorte le case perché ad Amatrice come una lotteria infame. Il problema ad Amatrice, il problema vero è che non si stanno costruendo le case. Ma facciamo finire Purgatori un attimo, Corona, c'è la burocrazia di merda. Da un punto di vista alto, stai in montagna, Corona, fammi parlare un attimo. Allora, ad Amatrice, se c'è venga un signore in montagna ancora. Che mi sembra pallido. Allora, vabbè, adesso però questa non ne farei una ragione, diciamo, di epiderme. Sono pallido perché mi lavo tutti i giorni. Allora, no, per quello. Allora, la battuta più sciocca, la battuta più sciocca che poteva avere. Vabbè. Io e Cruciani abbiamo inventato questa storia che non ci l'avevamo, ma io ho del profumo da buttarle sulla barba. Fantastico. Dai, non dico. Però scusa, vieni evocato. No, ovunque, ma vedi. Io dico una cosa, ma non è vero che ci siamo inventati, è la verità. Cioè, la verità, ci laviamo poco rispetto agli altri, molto poco rispetto agli altri. Sì, cioè, sì. La realtà non è che ci siamo inventati niente. Giuseppe. Quando vuoi. Faircam Transport. Puntuale ed efficiente nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta. Eccone un altro. Capo, ricorda quella pratica urgente da aggiornare? Dov'è finita? Il cliente è infuriato. E non la trovo, troppi documenti. E dove sono la nostra efficienza e affidabilità? Quanto mi costa tutto ciò? Affrontiamo la digitalizzazione documentale? Sì, ma come? Per abbattere inefficienze e costi documentali, non sparare a caso. Chiama Kyocera Document Solutions, gli specialisti del documentale. Trovi i documenti subito, li scansisci in cloud e li stampi da mobile. Kyocera Document Solutions, la trasformazione digitale che ti fa focalizzare sul tuo core business. Scopri vantaggi su www.kyoceradocumentsolutions.it. La Zanzara. Amidovic Rambo. Mio figlio. Rambo. Amidovic Bairo. Mio figlio. Amidovic Alio. Mio marito. And I hope you had the time of your life. Dunque, Parenzo vuole lo Jussoli perché è bravo, non si schioda, lo Jussoli. Poi qualcuno gli fa notare che in Israele non c'è lo Jussoli e costruiscono anche i muri. E allora il decorticato dice, però quello perché è giusto, lo appoggio perché bisogna difendersi dagli altri stati antidemocratici. Parenzo, vai a studiare, non rompere il cazzo. Capra. Vuoi rispondere a questo tizio? No, voglio rispondere proprio niente, perché non c'è nessuna contraddizione da mettere in evidenza. Questo poveretto della minoranza rumorosa ha perso una buona occasione per starsene zitto, perché non ha capito. Intanto i contesti sono tutti diversi. Che vuol dire? Ogni paese fa storia. Vabbè, a sé. Ho capito, però ragionando così. Ogni paese che vuol dire? Fa dai. Storia ti a sé. Ti ho fatto l'esempio della Lo Svizzera Stato ieri. Israele. Dai. La Svizzera, cosa c'è della Svizzera? Non è un paese la Svizzera, è una croco. La Svizzera. La Svizzera è un paese straordinario dove si va a sciare, dove d'inverno, dove si mangia dell'ottimo formaggio, la raclette è meravigliosa, la fondue de bourguignon è stupenda. Dopodiché, ragazzo mio, Svizzera, dai, su! Allora, io non sapevo dell'esistenza di un tizio che è a capo di un'associazione di ex detenuti, si chiama Pietro Ioia, il quale difende i parcheggiatori abusivi di Napoli, cioè praticamente è il loro sindacato. C'è un sindacalista dei parcheggiatori abusivi di Napoli, una cosa incredibile. Poi dice l'Italia non si può salvare, Napoli non si può salvare, il Meridione non si può salvare, scendendo giù per i rami, come direbbe qualcuno, no? Ragazzi, è qui, in queste parole, è irrecuperabile. Ma esiste in un altro posto uno che rappresenta gli interessi, detto con tutto il rispetto, dei parcheggiatori abusivi di Napoli? O i parcheggiatori abusivi, che ne so, di Klagenfurt? Non ci saranno, ma se ci fossero, ci sarebbe un loro rappresentante sindacale? La risposta è no, non esisterebbe, perché non esiste questa roba qui, andrebbe debellata. Comunque, questo Ioia, senti che cosa dice. Allora io posso dire una cosa. Prego. A Napoli ci sono oltre 1500 parcheggiatori. Purtroppo quel parcheggiatore si è arrabbiato perché lui porta il pane a casa. I parcheggiatori sono quasi tutti ex detenuti che si sono inseriti facendo il parcheggiatore abusivo, perché a Napoli non c'è lavoro, non c'è niente da fare, loro vivono così. Poi a un certo punto scontro mitico con Poletti, il ministro della... pensavo Poletti, Poletti no, di non so Quinta chi è, Colonna. No, Poletti, no, scusami, Poletti quello del coso, no, sto scherzando naturalmente, Poletti quello di ovviamente della Quinta di, Colonna, della Quinta Colonna, certo. Ti pare che si scontra, no, ci sei infatti... cascato quasi, no, ci sei cascato. Cascato assolutamente no. Trovate una soluzione per questa gente. Sì, però. Cioè, qua basta che si dice abusiva, abusiva. Gli onesti chi li difende? Ma pure uno governo abusiva. Gli onesti chi li difende? Io vorrei sapere, gli onesti in questo paese chi li difende? Marco da Bergamo, vai. Comunque, Poletti, secondo me si candida. Poletti si candida sicuro. Guarda, con vedrai. Chi? Sì, con la Lega, sicuro. Ah, no. Marco da Bergamo, vedrai, sicuro. Al 100%. Giornalista indipendente. Ma è già stato candidato per. È stato già deputato dei Verdi. Con i Verdi, sì, ma è Marco giornalista Bergamo, indipendente dai. Dalla parte dei più deboli, dei Rom, eccetera, no? Come vedi. Dai, dimmi, dai. Andiamo dai. Avanti, dai. Niente, volevo parlare sulla questione della cittadinanza italiana. Vai, Marco, però cosa veloce, fa? Dai. Sta mangiando, non si sente niente. Dai. Secondo me è giusto dare la cittadinanza italiana a chi nasce in Italia, però bisogna difendere anche i diritti degli italiani. Per cui c'è una donna. Cosa vuol dire difendere i diritti degli italiani? La parola, la frase difendere i diritti italiani, che cazzo vuol dire? Nulla. Cioè, io sono contrario, per esempio, allo Ius Soli, ma non so cosa significa la frase difendere i diritti degli italiani. Non lo capisco concretamente, che vuol dire? Nulla, nulla, nulla, nulla. Come nulla? Vuol dire che fino a prova contraria un italiano è in Italia, i genitori italiani. Vabbè, allora, ma difendere i diritti, che vuol dire difendere i diritti? Difendere i diritti vuol dire che tutto quello che è stato fatto dai nostri nonni, dai nostri bisnonni fino a oggi, ma che vuol dire? Ce lo stanno portando via, ce lo stanno mangiando via. Ma chi lo sta mangiando? Spiegami, chi lo sta mangiando? Dai nostri politici, finendo all'ultima feccia di quelli che portano questa povera gente, portandogli via i soldi, perché questi pagano per venire in Italia, non lo fanno gratis. Dunque, tu non ho capito il ragionamento qual è. Prima di dare lo Jussoli, bisogna fare cosa? che sia almeno una persona che sia in Italia da 3-4 anni, che abbia un lavoro, che abbia una residenza. Vabbè, ho capito. Ciao, Roberto da Venezia. Vai, Roberto. Dimmi. Sì, pronto, buonasera. Vai, dimmi. Sono Roberto. Sì, no, niente, volevo fare i complimenti al signor Parenzo perché è un artista. Un artista di cosa? Sì, artista. È un artista dell'ipocrisia, secondo me. Un artista dell'ipocrisia, che vuol dire? Sì, perché io non credo che lui sia veramente così, perché dice quelle cose che veramente... Per esempio? Cioè, lui difende tutti, qualsiasi immigrati, qualsiasi cosa che dicono va bene così. Dipende, caro. No, non dipende da niente. Dipende, caro. No, non è che dipende, qualsiasi cosa. Comunque, secondo me, lei si è creato il personaggio, complimenti. Sì. Perché veramente, cioè, tipo un Sgarbi, ecco. Secondo me è così. Sì, difende gli immigrati a prescindere? Sì, sicuramente. Sì. Io la vedo così, dopo Maria, per l'amor di Dio, io devo dire la verità. Comunque, io la vedo così e complimenti perché... Grazie, allora. Sì. Lo stipendio continua a salire è fermo. Qui è fermo. Però il personaggio continua a salire. Ciao, Roberto. Arrivederci. Ciao, Roberto. Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello. La radio la fai tu, sei tu il fenomeno. Ti vogliono un fenomeno. Fenomeno. Ti vogliono un fenomeno. Fenomeno, io non ho capito una cosa, ma che c'entra? Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. Siete dei volgari e ignoranti. Questo è arrivato lui, Ivan. Non è sbagliato. È arrivato il censore Ivan. Frate, fammi fare il fenomeno. Fenomeno. Vergognatevi! La zanzara. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. È una cubana rifatta, un chiavatone esagerato. Quale maggioranza silenziosa? La maggioranza è rumorosa, Parenzo! La maggioranza siamo noi, siamo, Parenzo! Un capoto un cazzo, un capoto! La minoranza è silenziosa! E avete che stare in silenzio, avete che stare! Il 5 Stelle siciliano, altro personaggio incredibile di questa trasmissione, caro David, attacca Parenzo! A spada tratta, sentite. Voglio andare a annunzi, 5 anni, così. Te voglio, appena chissi, te venne a ballare, non capo che chi li dà, Radio 24, l'immigrato. Ti dicono, Parenzo, lavoro, Parenzo, pezza a merda, Parenzo, tu dare lavoro, tu dare soldi, 50, 100 euro. Poi vediamo che fai. Te sei minchia. Traduzione. Sì, prego. Cioè vengono lì a Radio 24, ti chiedono 50-100 euro e tu poi che fai? La prima parte non l'ho capita però la prima No, parte. Era abbastanza incomprensibile, ma ne facciamo a meno volentieri, no? Ancora il 5 Stelle palermitano, mi piace da impazzire questo qua. Sì. L'accento, la ferocia, l'attacco, tutto. E 200.000 voti di fascisti e Mussolini. Ma noi se quattro pezzi in mezzo che hanno governato nell'ultimo 15 anni, soprattutto nell'ultimo 5 anni. Meglio Mussolini, Carrenzi e compagnia bella Gio Magico della mia minchia. Meglio Mussolini, Parenzo, meglio Mussolini Benito. Beh, adesso dai, questo stai esagerando. Un bel elettorato quello dei 5 Stelle, però devo dire. Cioè, questo qua è un militante dei 5 Stelle di Palermo, il quale dice meglio bello. Mussolini di Renzi. Beh, in linea con il padre di Battista, mi pare, no? Beh, più o meno, sì, diciamo adesso. Sì, mi pare in linea, non ci vedo nulla di strano. Allora, in linea col padre di Battista. Sul web, sul famoso web, internet. Se vi piace così, ragazzi, ma miei, chi fate piace quello così? Che volete. Ma chi piace così? Io... Fate quello che volete. Allora, continuate a dare una rappresentazione, a distruggere questo paese. Ma che vuol dire cose. distruggere questo paese? Tu contribuisci a distruggere questo paese. Ma perché dici? A dare un'immagine indegna di questo paese che in realtà è il paese dell'accoglienza, è il paese dell'ONG, è il paese del diritto, è la la patria dei diritti, capito? Cioè questa è, non è questa rappresentazione farsesca che fai, che contribuisce a distruggere la nomea di, cioè secondo paese. Te io sono un distruttore dell'Italia. Sì, dai, naturalmente. E anche delle imprese, naturalmente, no? Beh, cioè tu dici che io sì. distruggo i miei datori di lavoro. Tu sì, tu sei il più grande nemico dell'attrazione dei capitali dall'estero. Cioè se uno deve investire in Italia dice un momento, no, ma sentiamo la radio economica, cosa dice del Sole 24 Ore, accende sì. e sente questo spaccato d'Italia, cioè, oh, dici boh, questo no, stronzo di Palermitano. Sì, dici. Ma per carità, allontana i capitali dall'estero, siete gente pericolosa, ma nonostante questo l'Italia sopravviverà. Allora, il suicidio in carcere di Marco Prato. Ma non parliamo dell'abuso d'ufficio e falso della signora Raggi? No, ma non parliamo, parliamo della signora che Raggi dire? Ma siamo che rischia il processo. Non parliamo del fatto che adesso che siamo verso il rinvio a giudizio della signora Raggi, i 5 Stelle forse hanno cambiato pelle su questo. Sì, ma l'abbiamo già detto. L'abbiamo già detto, ma oggi, amico mio, c'è una notizia nuova. Sì. L'abuso d'ufficio e il falso. La signora Raggi rischia il processo. Quindi abbiamo un sindaco sì. che rischia, che è innocente per dei 5 stelle, dei 5 stelle, 5 stars, che rischia un processo. Ma vogliamo parlare anche di diciamo, questo? Vogliamo in altre occasioni a quel fanatico fascista siciliano che ha chiamato poco fa, come si rapporta rispetto a questo fatto? Come si relaziona rispetto a questo fatto? Cioè, tu stai dicendo che in altre occasioni i 5 stelle avrebbero chiesto non il non le dimissioni, ma addirittura il patibolo, addirittura la condanna del vituperio, la lapidazione, quello che volete voi, certo, il blog, la rete, sarebbero esplosi tutti in manifestazione. A proposito di rete, a proposito di rete, molti esultano sulla rete per la morte in carcere, per il suicidio di Marco Prato. Incredibile. Marco Prato, per chi non se lo ricordasse, è colui che insieme ad un altro che si chiama Foffo nel marzo dell'anno scorso ha ucciso barbaramente, sì, torturato certo. un altro giovane, Luca Varani, dopo un festino a base di droga. Sì, beh, certo. La cosa incredibile di questa vicenda sul suicidio, ragazzi, è che non si può morire in carcere. Vabbè, ragazzi, però è se uno se vuole ammazzare in carcere, si può ammazzare. Sì, però cioè, questa è la base di partenza. Andava controllato, andava sottoposto vabbè, più controlli. Ma se uno si vuole ammazzare, alla fine si ammazza in carcere. Dai, anche su. Il criminale più cattivo, duro, cioè, non può però morire. Posso dirti la verità, uno che nelle tortura. Mani dello Stato. Sì, d'accordo, questo, io voglio dire questo. So che sarà impopolare questa cosa molto serie che vi sto provando a dire, perché adesso cominceranno a dire difendi anche un criminale maledetto come quello lì, che è giusto che sia in galera, ma non può morire nelle mani dello Stato. Vabbè ragazzi, però se uno si vuole ammazzare in carcere, ho capito, alla fine si ammazza. Ci sono i periti, bisogna capire perché, magari ma stava già male, dava sì. Questo uno non può morire in carcere, questo siamo d'accordo su questo principio sì, di civiltà però, o no? Scusami, scusami basta, un attimo. Basta, sei d'accordo anche tu? Uno non può morire in carcere. Ho capito, questo ma non dovrebbe è. Morire in carcere, ma se uno si vuole ammazzare trova sempre un modo, no? No, questo si no, un sacchetto no, in testa. Nelle mani dello Stato, si è capito, ma è una sconfitta dello Stato. Comunque, scusa, ragazzi, la realtà è questa: c'è qualcuno che piange per questa morte? C'è ma qualcuno no, che è rimasto colpito da questa cosa? Ma nessuno piange, ma non essere ovviamente nessuno no, piange. Su web c'è grande ferocia su questo. La ma gente appunto, dice uno di meno, un brutale assassino. Ma il web è una fogna, dai, è un Vespasiano il web ormai, è un Vespasiano, un cesso. Sei un gabinetto schifoso. Esatto, questo esattamente. La cosa incredibile è un'altra. Il signore che ha partecipato insieme a Prato al feroce assassinio di quel ragazzo, Luca Varani, si chiama Foffo, l'ho già detto. Questo qua ha preso solo 30 anni. Cioè, per quello che hanno fatto questo, le torture, le sevizie, l'uccisione brutale, questo ha preso il rito abbreviato 30 anni. Vabbè, rischia di essere fuori, rischia di essere fuori con gli sconti di pena, eccetera, magari dopo 20, dopo 18, per un brutale assassino di questo tipo, il signor Foffo, capito? Cioè, ragazzi, ma questa è la vergogna, non ci può essere per un delitto del genere il rito abbreviato in cui c'è lo sconto di pena sin dall'inizio, non ci può essere. Se è previsto il rito abbreviato, comunque sono sempre 30 anni, voglio dirti, non è che sia una passeggiata di salute la cosa. Comunque, voglio dirti una cosa, il quotidiano Libero, sì, il sito del quotidiano Libero, di cui Feltri non sa mai niente, cioè non sa quello che accade, oggi pubblica una serie di foto mie e tue, no? Sì. Insieme. Sì. E poi c'è scritto il titolo è Coppie. David Parenzo tradisce Giuseppe Cruciani. Due punti. Con chi lavora adesso? Virgola. Beccato. Guarda. Ora, chiariamo subito una cosa. Beccato. A cosa si riferiscono? Scusa. Tradimento. Intanto io rimango qui alla Zanzara quest'anno, l'anno prossimo ancora. Non me ne vado da qua se non mi cacciano. Quindi rimango qui. Prima notizia, quindi non tradisco nessuno. Secondo. con chi lavora adesso beccato. Ma beccato un cazzo, amici di Libero. L'ho pubblicata io quella foto con il signor Telese al mare per il promo di In Onda. Che dite? Che dite? Tradisce Cruciani con chi lavora adesso, virgola, beccato. E poi c'è il maledetto guarda, che è una delle cose che io di più non tollero. Guarda, beccato. Ma beccato da chi? L'ho pubblicata io quella cosa. Incredibile. Va bene, ragazzi, dove andiamo? Gente incredibile, gente incredibile. Pierangelo Palermo, vai, Pierangelo. Ciao, caro. Dimmi, dimmi, dimmi. Oh, dai, parla, amico mio, non mi fare. Allora, io ho aspettato 10 minuti per intervenire. Un secondo, scoop a Palermo. I parcheggiatori si salutano con la municipale. Cioè, vuoi dire che i parcheggiatori abusivi di cui abbiamo parlato prima a Napoli... esatto. In questo caso a Palermo si mettono d'accordo con la polizia municipale, cioè la polizia municipale lascia ma questo è normale, però scusami, è chiaro che è così, è chiaro che c'è una tolleranza, non è che è tanto normale, no eh? Ma è normale che ci sia la tolleranza, che ci sia una sorta di se beh, vuoi c'è no? Una legge che li incula, ma, la verità è questa. Ma fosse per me, Pierangelo, dovrebbero cancellarli tutti. Cioè dovrebbe, se uno fa il parcheggiatore abusivo, lavora in nero, fa tutto quello che non bisogna fare, ha a che fare con uno magari che parcheggia la macchina e dice scusi lei chi è? Bascia, ma sono parcheggiatore abusivo. Dai, quanto hai guadagnato oggi? Ciao caro. Ma tu dici la polizia qua, la polizia municipale è d'accordo in che senso? Che li chiama? No, si conoscono tra vabbè, di loro. Questo, vabbè, ma non è che mi viene a fare la rivelazione del secolo, scusami. Cioè, vabbè, ma se sai anche gli introiti, sai che comunque... Cioè che gli passano la mazzetta, dici? No, ma sanno il business, 5 rammacchia... Senti, ma una curiosità, ma durante un evento, cosa succede? Si mettono d'accordo? Non lo so, questo non te lo so dire. Vabbè, ciao, Vincenzo dalla provincia... Però fratello, piazzare due telecamere. Sì, Vincenzo dalla provincia di Lucca, vai. Sì, buonasera. Una domanda per Parenzo. Sì, prego, prego. Parenzo, ma tu quando ti guardi allo specchio sei realmente convinto di far parte della maggioranza silenziosa? Senza ombra di dubbio. Cioè da solo, quando tu sei lì da solo, ti guardi, ti dici... Io faccio parte della maggioranza silenziosa. Sì, assolutamente. Io non ci credo. L'Italia è io il paese che amo. Ma che cazzo ti racconti allo specchio? Maggioranza silenziosa. Cioè, dovrebbe sputarsi, non ho capito. Ma che cazzo ti racconti? Tu non fai parte della maggioranza l'Italia, silenziosa. L'Italia tu fai migliore, parte di una l'Italia minoranza attaccata, di furbi. L'Italia riflessiva. Che si racconta l'Italia di raccoglienza. Essere di una maggioranza silenziosa. Ma perché furbi? Il paese è quel paese. Furbi, non credo. Perché insomma, furbi? Scusami. Sostengo cose apparentemente impopolari. Apparentemente. Ho perso un po' il segnale. Scusa. Perché furbi? Non ho capito. Oh, perché furbi? Vi sento male. Non è che sente male, è che lei non le arriva. Ecco, adesso è tornato. Allora, ecco, non arriva l'impulso. Allora, guarda, Parenzo, tu continui a prendere per il culo te stesso e prendere per il culo tutti quelli che ti ascoltano. Sì, beh, questo non credo, però prego. Allora, come ma non credi? Che cioè, vuol c'è dire? Una marea di gente che dire? Se ti incontrasse ti bastonerebbe. Solamente per soddisfazione. La maggioranza silenziosa non è... fatta non di persone come no, te no. E di come fatto? Fai tu a credere una cosa del genere? Di miserabili, chi di sono quelli come te? Miserabili come lei è il paese migliore, no, miserabile paese. Io non ti ho insultato, perché ma miserabile è un grande libro anche, no? I miserabili, insomma, non è una cosa così negativa. Senti Ugo, lascialo perdere. Allora tu allora che... non fai parte di una maggioranza ma silenziosa. Che cazzo ne sai tu? Lo sai cazzo, lo sai. Ciao fermo. Perché fermo lì cosa? Ciao. Adesso parliamo seriamente. Siete due delinquenti, pagliacci e imbecilli. Andate a fare il culo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Di fronte a una malattia del sangue, capita di sentirsi abbandonati. Per questo AIL, in occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, ti dà la possibilità di confrontarti direttamente con alcuni dei più illustri ematologi italiani. Il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24 e troverai risposte alle tue domande. Per maggiori informazioni, visita il sito AIL.it. Che cosa distingue quest'auto da quest'altra? Tecnologia! E la tua impresa? Che motore ha? Scoprilo con la nuova piattaforma di Comarc per la pianificazione dell'export. Lo strumento per trovare i mercati e i clienti più adatti ai tuoi prodotti. Scegli un temporary export specialist Comarc. Scegli un export di successo per la tua azienda. Vai su comarcspa.it o chiamalo 035 23 33 37. Comarc, gruppo Tecno Investimenti. Scusi, mi dà una mano a spalmare la crema? Le occasioni migliori capitano d'estate. Estate Ford. Ford Fiesta Diesel e GPL. Al prezzo del benzina. Solo con finanziamento Idea Ford a 9.950 euro. Oltre oneri finanziari. TAN 3,95, TAEG 6,13. Dottor Barter, cosa consiglia oggi alle aziende in ascolto per ottimizzare il business? Svuotare il magazzino dai prodotti in scadenza e rinnovare il packaging destinando le eccedenze al cambio merce pubblicitario. Allora, dottor Barter, qual è la soluzione? Chiamare Gruppo Next per fare pubblicità in cambio merce in Italia e all'estero. Gruppo Next, per farvi conoscere con spot in TV, radio e web, tutto senza spendere. Visitate Gruppo Next e il sito pubblicitaincambiomerce.it. La zanzara. Che bello è mettere in moto il camion, andare contro una moschea, vedere il sangue per terra. Che bello è la la la la la la la la la la la la la. E un parenzo di merda. Get your kicks, get your kicks. You gotta run real fast from the blue. Ma vai a fanculo, va. Guarda, tu vai avanti ancora così a offendere i muslim, no? Tu vai ancora così a offendere i musulmani. Non so se avete sentito quel messaggio iniziale, caro David. È una vergogna, cioè, ma non per quello che ha detto su di me, figuriamoci, non me ne frega niente questo qui. Cioè, tu dici uno che canta ed esulta. Uno per... che canta su una tragedia come questa, facendo la canzone sul pazzo scatenato che a Londra ha disturbato la preghiera musulmana, facendo è un terrorista, cioè è l'elogio del terrorismo. Se l'avesse fatto un musulmano, diciamo all'opposto, sarebbe stato indagato per terrorismo. Ma diciamo esatto, sicuramente, esatto, certo. Se un musulmano avesse sarebbe fatto stato la per stessa terra. Canzoncina, sarebbe stato indagato per terrorismo. Questo qui invece andrebbe rinchiuso in una struttura sanitaria adeguata. Ma è un coglione, è un coglione. Sì, non so se la storia sia vera, ragazzi, però quello che succede a Urbino è abbastanza incredibile. Abbiamo avuto delle conferme. Allora, la leggo così come arriva questa notizia. Un ragazzo di Urbino è stato accusato di violenza sessuale nei confronti della fidanzata. No. Lei avrebbe acconsentito solamente, lei marocchina, di origine marocchina, avrebbe acconsentito solamente ad un rapporto anale per preservare la sua purezza. Dottore. No, aspetta, è la notizia, è una notizia vera, dottore, che arriva. Ho capito, dottore, arrivato, che c'è. Arrivato chef Vissani per fare grande cena, dottore. Lui invece l'avrebbe costretta al coito vaginale. Dottore, tal tal tonno pronta. Entrambi sono musulmani. In Marocco le donne si devono presentare al matrimonio con un certificato di verginità, almeno questo dicono, oppure vengono ripudiate. Da qui la richiesta della ragazza. Ora, ragazzi, è vero o no che c'è questa richiesta in Marocco da parte delle ragazze? Sì o no? Questo bisognerebbe capire. Al di là della vicenda, che è incredibile, fosse vera. Antonio da Bari, vai. Antoine. Sì, senti, come si fa a dare il culo e non dare la figa? Che ne so, amico mio, ma ognuno le sue tradizioni. Questo studioso di Harvard, chi è questo studioso di Harvard? Chi è? Fatto dentro. Vabbè, allora? Niente, volevo dire che... Sì, ma ci devi fare capire bene quando parli, però. Non ci puoi parlare da una fogna, o da una spelonca, o da una grotta, oppure col viva voce, eccetera, eccetera. E non lo voglio dire più. E non si capisce una mazza, caro Antonio. Non ci capisce una... Meglio. Per la radio. Allora dimmi, dai. Niente, volevo dire che Di Parenzo, che è un minchione, perché come si fa a dire che Monti è stato uno dei migliori governi? Ma secondo lui, Prodi, potrei citarne tanti, potrei citare Richiamatemi questo Antonio, dai, Dario, dai, richiamatemi Monti, questo Antonio, Romano Dario. Prodi, insomma, governi che hanno fatto delle cose serie. Dimmi, Dario, dimmi. Impopolari. Dario? Che ha fatto questo? È morto, che ha fatto? Dario? Dario? Niente, Dario, questo si è staccato dal telefono, c'è il cane adesso al telefono. Sai, qualcuno pensa anche che il cane possa parlare, magari un animalista ci ha passato il cane direttamente. Dario? Dario? Questa è la moglie. Ma che cazzo sta male queste qua, però, poveretto. Ma chiamate l'ambulanza più che la zanzara. Simone da Roma, dai. Ciao, dopo David, io dopo Dario non so che dire. Comunque, David, siamo con te. Grazie. Sì, lo so, siete tanti, mi scrivete, esatto. Lo so, siete tanti. Dobbiamo un po' resistere perché che sembra una rappresentazione diversa, ma so che siete tanti, io vi ringrazio e vi abbraccio tutti. Tu sei l'unico con la schiena dritta, possiamo dirlo questo. Schiena dritta e faccia pulita. Schiena dritta e faccia pulita. Gli altri che sono dei coglioni, non ho capito. Avanti tutta. Però la domanda è per Giuseppe. Io farei parte della maggioranza silenziosa, però la domanda è per Giuseppe. Giuseppe, dimmi, Simone, dimmi. Qua, ieri ho sentito, perché sento in podcast, parlavano dei piedi tatuati, ma ci siamo dimenticati il più grande particolare. Cioè? Cioè gli anelli sui piedi. Vorrei sapere la tua, perché qua c'è un gruppo d'ascolto in tutta Europa, sì, che si chiede e dobbiamo dirimere questa questione. Cioè se a me piacciono oppure se è una cosa che può provocare eccitazione gli anelli sui piedi delle donne. Sui piedi, l'anello come quello sulle dita delle mani, però sui piedi. Sì, amico mio, anche questa è una vecchia questione. Cosa ti devo dire? Tendenzialmente, guarda, non mi fa nessun effetto l'anello. Però anche lì dipende dal piede, naturalmente. Se il piede è brutto non c'è anello che lo possa salvare, diciamo la verità. Ma questo sì, però come allora questo è il punto, dai. Come ma no, come... ma non è una roba un po' hippie che non ma, una roba sì, da hippie che non mi ha mai appassionato molto, cavigliera? Diciamo. No? Ma no, la cavigliera nemmeno, no, beh, tendenzialmente beh, te invece la cavigliera un po' di la maggioranza come maggioranza silenziosa sulla cavigliera potrebbe come dire ha suscitato qualche piccolo sempre sussulto. Con grande sì, sempre con grande pacatezza e tranquillità senza sponsorizzare troppo, però indubbiamente la cavigliera ha un suo perché. Rientra subito nei ranghi Parenzo, sì, rientra subito, detto con moderazione senza eccitazioni, oh, Davide, più dottole, però Davide. No, dottole in questo momento non è una porcheria. Però ecco, sì, la cavigliera indubbiamente. No, vabbè, Simone, non ho capito perché a te invece appassionano gli anelli. La bestia, molto, come direbbe Giannino, la bestia. Non ho capito, Simone. Cos'è che gli anelli ti arrapano gli anelli ai piedi? Sì, alle dita. Sì. Vabbè, ognuno il suo. Che te torniamo ai fatti del giorno. Sulla legge elettorale, lei che riflessione faceva? Ma che gliene frega questo? Vuole sta pensando a arraparsi con gli anelli ai piedi? Maria Antonietta, provincia di Roma, vai. Vabbè. Maria Antonietta, dimmi. Volevo soltanto pregarvi di una cosa. Dimmi, mi piacete tanto come trasmissione, sì, ma dite troppe parolacce. Veramente non abbiamo detto oggi, però. Cortesia, sono costretta a spegnere. Signora mia, no, però ha ragione, no, però, mi dispiace perché io proprio ho una grande ammirazione per questa trasmissione. Grazie signora, no, lei ha perfettamente ragione. Cercate perlomeno voi di non dire tutte le parolacce, sì, che dite. È un piacere che vi chiedo. Sì, però signora Maria Antonietta, le dico una cosa, gliela dico con tranquillità. Le parolacce fanno parte dell'animo umano, fanno parte ma della Gruciani. Sì, scusi, signora, però non voglio insistere. Io la abbraccio fortissimo. Lei si abitui, resti all'ascolto. Si abitui. Anni. Ho capito, signora, che devo fare? Che qui si va. Devo abituare. Qui si va da ascoltatore di 20 anni ad ascoltatore di 86. Se io dovessi seguire quello che dice lei, saremmo morti a quest'ora, signora. Mica perché voglio dire che lei è anziana. Ha ragione. Allora la prendo come buona. Che te devo dire? Tanti auguri. Aspetta, Maria Antonia, io voglio capire una cosa. Ma a 86 anni, tu, per esempio, quando si parla, noi parliamo di sesso, di com'è che ha detto quel tizio là, quello che si è annato là, come si chiama? Di lunghezza del pene. No, ecco, ma lei si impressiona? Ma io non mi impressiono perché ho fatto 3 figli. Ho avuto una vita molto bella matrimoniale. Anche sessuale, immagino, no? Anche, esattamente. Ma lei, scusi, a 86 anni, fino a quando ha scopato lei, se glielo posso chiedere con una certa delicatezza? Fino a un paio d'anni fa, fino a 84. Signora mia, però perché lei risponde a queste domande e cade nella trappola? Io rispondo perché me va di rispondere. Parenzo, se faccia affari suoi. No, ma capito, io signora, venivo in suo soccorso. Ha ragione, ma io venivo in suo ausilio. Ma non è il suo ausilio, ma no, in suo ma falla parlare se venivo. Non le va di risponderti. Ma signora mia, ma una signora per bene come lei che cade nella trappola di quell'orco cattivo e anche sporco. Ma che trappola? Ma scusami, signora, Maria Antonietta, ma da lei. Insomma, signora, ma ci dice, ma no, signora mia, ma però, lei. Ma mi faccia il piacere, signora mia, ma scusi. Ma fammi il piacere tu. Ma faccia un piacere. essere lei, signora Chiama, per dire di non usare le parolacce e poi si mette a rispondere sulla sua attività sessuale. Ma signora ma mia, che ho detto, Dio, ma sono due cose diverse. Ma ha ragione Maria Antonietta, ormai non distingui più tra i discorsi. Non sto dicendo niente di osceno, niente, nulla. Sta dicendo che fino a 84 anni, fino a due anni fa, ancora aveva attività sessuale. Ma mi pare una cosa, ma scusi, ma con chi? Per curiosità, con suo marito? Con mio marito, che poi è morto, immagino. No, vabbè, ma adesso... no, è vivo e vecchio. Ah, mi scusi, signora, ho capito. E come mai fino agli ultimi due anni niente? Ho capito, perché basta. Non è stato bene e quindi basta. E ormai diciamo ma no. Ma signora, ma perché si presta? Ma lei... Gli hanno messo il pesmeger. Che gli hanno, comunque gli hanno messo il pesmeger, non può più trombare sostanzialmente. Certo. Ma come certo, signora mia? Ma perché deve interessarci questa cosa? Dai! Ma signora, ma davanti... signora, ma lei ha anche una certa età, davanti a 2 milioni ma di persone. Affari tuoi. Ho capito, ma signora, vieni a farci la morale a noi, poi parla delle sue bravo, cose, delle sue attività sessuali. Non sto parlando di niente, sto rispondendo. Scusa, io ho utilizzato cose che sono la normalità della vita. Io ho utilizzato con Maria Antonietta la parola cazzo per caso, ho detto no, qualche capito, parolaccia però, la signora Antonietta, no. Ma semplicemente ho semplicemente chiesto a Maria Antonietta se non se aveva se ha ancora un'attività sessuale. La signora Maria Antonietta gentilmente con grande pacatezza, moderazione, ma non c'è più il senso del privato. Senso Antonietta, anche, con grande senso anche confindustriale, se vuoi, no, ha risposto. Ma non credo fino proprio, a due anni fa, ho 84 anni, ho avuto una. Ma scusa, ma dove la trovi una che fino a 84 anni scopa col marito? Ma diciamo la verità, mi pare una scena, diciamola una cosa tutta. Abbastanza incredibile dopo una certa scusi, età. Ma scusi, fino a due anni... ma pensasse a se stesso. Ma come si permette, signora? Che c'è lui con la moglie. Ma come si permette, signora? Che nessuno si permette di venire a di niente. Ma signora mia, ma come mai? Io mi meraviglio di una signora della sua levatura. Scusa, che parla già... in radio di questa cosa. Ho 84 anni, poi, dai, su. Ma c'è tanta gente che non ha più rapporti sessuali nemmeno a 30 anni con le fidanzate, con la moglie, eccetera. Maria Antonietta, invece, fino a 84 anni ha trombato, immagino, solo col marito. A parte credo, che chi ci crede? Esattamente questo. Ecco, perché lei ha avuto solamente un uomo nella sua vita, signora? Ma chi ti frega? Un uomo solo, da che età, signora Maria Antonietta? Ma che ti frega? Da 22 anni. Da 22 fino a 84, amico mio. Esatto. Sono 62 anni di trombate solo col marito. Mi scusi per la parola. Esatto. Mi scusi. E mi sono piaciute. Tutte. Vabbè, le sono anche, piaciute. Signora mia, ma sono dettagli di cui non ce ne frega nulla, però, dai. Ma che modo è? Sono affari tuoi, sto parlando con Giuseppe ancora. Giuseppe, no, ho capito. Scusami, ho capito. Maria Antonietta, ti abbraccio fortissimo. Però l'altra domanda che mi viene spontanea è questa: è possibile che in 62 anni lei non le sia venuta nemmeno una voglia di un altro uomo, di un altro maschio? No, non mi è mai venuta. E suo marito è stato. Perché mio marito mi soddisfaceva completamente. Anche, ma sì, signora certo. mia, ma le pare modo però? Qua. Ma io non lo so. Ma naturalmente. Ma le sembra modo di parlare così? Ma io dai. Ti vorrei far vedere come so ancora adesso a 86 anni. Ma com'è? Com'è 86 anni, carità, signora? Ma scusi. Per carità. Com'è? Una bella donna ancora? Sì. Una bella donna, cioè, ma chi se ne frega, dai, su. Attira anche giovani? Ma figurati. Come? Attira anche giovani, dice no. Ma quello non no. Attiro niente perché non me va ad attirare nessuno. Però 86 anni ancora gli ammolla, come si dice. Ma gli ammollerei e come? Scusi, però. Ma una signora cosa mia, però posso con grande garbato. In un modo molto garbato. Ma se... lei. Ripercorriamo. Lei ha chiamato per rimproverare un brutto eloquio in questa trasmissione. Esatto. E poi comincia a scendere nei dettagli di quello che fa la veneranda età con suo dettaglio. Marito. Ma chi se ne frega? Ma è una scena anche agghiacciante. Scusi, se posso chiedere. Ma posso chiedere se suo marito posso chiedere se suo marito, come dire, è ben dotato come uomo, cioè uno esattamente cosa poi. Ti saluto Maria Antonietta, grazie, sono stato soddisfatto in tutte le mie curiosità, magari ti richiamerò. Ciao cara mia. Grazie. Ciao. Ma che grazie. Silenzio la vecchia. La zanzara. Ragazzi, io sono curioso di una cosa. Dopo l'exploit di questa signora, non mi voglio fermare. Non mi voglio fermare. Esploriamo l'Italia. No, ma perché? Esploriamo l'Italia. Ma perché? Il parcheggiatore abusivo. Il sindacalista dei parcheggiatori abusivi di Napoli. Una figura incredibile. Come cazzo si chiama? Pietro Ioia. Ioia. Pronto? Pietro? Chi è? Sono Cruciani, ciao. Ah, Cruciani, sì. Come andiamo, amico mio? Bene. Senti, ma ho letto da qualche parte che praticamente difendi i parcheggiatori abusivi di Napoli. È Cruciani. i parcheggiatori sono tutti ex detenuti. Allora... Cioè, io preferisco che hanno parcheggiatore, che uno che chiesce a galera, va un parcheggiatore e non rapina tu. Quello certo, amico mio. Nonostante che hai sbagliato, Crucio. No, ma lo capisco perfettamente. Cioè, se uno dovesse scegliere, se si dovesse trovare di fronte alla scelta, vado a fare il parcheggiatore abusivo oppure il rapinatore, anch'io direi uno: senti, amico mio, fai il parcheggiatore abusivo e non il rapinatore, non c'è dubbio. Ma secondo... nessuno mi capisce. Beh, capisco, sì, nessuno ti capisce. Qualche dubbio uno può avere, no? Cioè, nel senso, il parcheggiatore abusivo è comunque sempre abusivo. Ma perché, però, posso fare una domanda? Ma perché non dobbiamo pure un governo che è abusivo? Sì, c'è una piccola differenza. Aspetta, c'è una piccola differenza. Il governo abusivo, comunque, sempre il Parlamento l'ha votato. Lei sa che c'è un voto di fiducia in Parlamento, no? Ma scusa, ma noi siamo un popolo, è sovrano. Sì, non è mai avuto a nulla. Sì, poi c'è anche la democrazia parlamentare. Sì, ma non no? è questo professore, non è Zagrebelsky, però, questo che parla. Pietro, scusami, no, scusi, è Parenzo che si introduce. Sì, sei uno sempre fissato con Zagrebelsky. Tu conosci Zagrebelsky per caso? Sì, lo conosco. Ma ti pare che gli, perché gli dai dell'ignorante? Scusa, no, gli hai dato dell'ignorante? Tu, no, Davide, gli hai dato. Lo sa questo signore che faccio, che mi chiama ignorante, lo sa cosa faccio io? Sì, cosa fa, professore? Aiuto gli ex detenuti, metto a lavorare gente che escono da carcere, che si va a pure il Parlamento. Lo faccio io da qua, sono un'associazione per il recupero degli ex detenuti, come prevede l'articolo 27 della Costituzione italiana. Altro che altro che Zagrebelsky, perché gli hai dato dell'ignorante? Perché gli hai dato dell'ignorante? Hai detto non è Zagrebelsky, ne sa più lui di Costituzione di Zagrebelsky, applica la Costituzione, aiuta i detenuti a reinserirsi, perché lo devi trattare in questo modo? Ho denunciato le violenze nel carcere di Poggio Reale, lasciate la sera, adesso uscirà un libro, lo leggerà se sono ignorante, uscirà un mio libro sulle percorse delle violenze che succedevano nel carcere di Poggio Reale. Certo, assolutamente, ma perché gli hai dato dell'ignorante? Guarda, Davide, sei incredibile, gli hai dato dell'ignorante, ma figurati, adesso non me ne frega, ma non so, a parte che non so neanche che non me ne frega niente di questo signore qui, francamente. Non te ne frega niente. Nulla. Quando me lo provo a fregare, figurati a me di te. Pietro, scusami un attimo, perdonami amici per questa. Sono Parenzo, il parcheggiatore abusivo, che figura è? Diciamo, come allora, sono questi personaggi? No, ma intanto non facciamo l'elogio del parcheggiatore abusivi, però. No, ma io non sto elogiando, io ho solo detto che sono tutti ex detenuti, chi ha fatto i furti, chi rapito. Ovviamente è sbagliato fare il parcheggiatore abusivo. Io personalmente io preferisco guardare immagini piuttosto che per rapini in del casa gente. Io lo preferisco. Ma tu l'hai fatto il parcheggiatore abusivo pure? No, io ho quattro nipoti che lo fanno. Ah, quattro nipoti. Bene, tutto. Come mai quattro nipoti? Scusa. Però non è normale. Possiamo dire che va bene, ok, è un tentativo di inserirsi nelle dinamiche della società contemporanea, come direbbe Fusaro. Però voglio dire, non è normale. Non è normale. Non è normale, ma non c'è sta la dinamica che può inserire, perché l'inserimento per chi esce dal calcio non esiste. Ma scusa, la colpa di chi è? Dello Stato che non dà lavoro, del governo che non dà lavoro, no? Ma uno non vuole nemmeno il lavoro, ma un inserimento al lavoro, un avviamento, qualcosa per essere impegnata ai giovani di Napoli. Cioè, certo, non certo. Ma scusa, questi quattro nipoti che hai, è possibile che tutti e quattro fanno i parcheggiatori abusivi? Tutti e quattro? Sì, tutti e quattro fanno. Scusa, non hanno trovato lavoro. Non quanti trovato soldi, quanti soldi si guadagna a fare il parcheggiatore abusivo a Napoli? 30-40 euro al giorno. 30-40 euro al giorno loro si guadagna. 40 euro al giorno per la settimana? 7x4 quanto fa? 7x4? 21. 200 euro la settimana, giusto per pagare un pigione, per mangiare, su tutte quante scusate. Beh, 200 in nero, naturalmente, tutto in nero, è ovvio, no? Tutti in nero. Perché non è legalizzato, Cruciano? Ma scusi, dai, amico mio, ma come si fa a legalizzare quel mestiere lì? Ma cosa dici, amico? Ma io non lo so. Ma non lo legalizzai, allora trovate un'alternativa, è facile per voi. Ma uno non dovrebbe fare, uno non dovrebbe farlo il parcheggiatore abusivo, uno non lo fa direttamente il parcheggiatore abusivo. Comunque, non è un crimine, non è un lavoro. Però per carità, assolutamente. Meglio quello che stiamo parlando di un grande crimine a caso. Stavo parlando di un parcheggiatore abusivo che tu vai, ci lasci le chiavi. In una macchina sicura, perché sai, a Napoli è un alto tasso in macchina. Ah, tu dici che alla fine è anche una cosa che serve, alla fine, no? Ma non vuoi, insomma, ha una funzione sociale il parcheggiatore. Sociale pure, perché parecchi e loro hanno le chiavi, te la cinecchiava. Amico mio, però devi ammettere che è tutto uno schifo. Diciamo la verità. Beh, un po' sì, dai. È tutta una cosa, proprio una roba proprio. Sì. Se no, altrimenti tu c'hai quattro nipoti parcheggiatori abusivi che governano Napoli. E se per caso tu non gli vuoi dare i soldi a questo parcheggiatore abusivo, magari ti minacciano pure. È successo pure che ti minacciano, amico mio. È successo questo. Scusa, però non tutti sono così. Sì. Non tutti sono non così. Tutti sono così. Comunque, amici miei, solo a Napoli. Diciamo la verità, solo a Napoli, solo a Napoli. Vabbè, ci stanno pure a Roma i parcheggiatori. Pochi. Ma a Napoli purtroppo è la miseria, l'arte di arrangiarsi, ormai sta finendo pure quello. Lo so, però sono tanti. Quello. Quanti sono sti parcheggiatori abusivi a Napoli, amico? Quanti sono? Quasi 1700 parcheggiatori. 1700? Ma è un esercito praticamente. È un esercito. Vabbè, amico mio. Fine settimana arrivano fino a 1700. Comunque, diciamo la verità, diciamo una cosa, dillo, vive i parcheggiatori abusivi di Napoli, dillo, diciamolo forte. Ma io lo dico, vivi i parcheggiatori abusivi di Napoli, perché invece di fare rapinatori, rubare uno, ti preferisco guardare una macchina e chiedere una mancia a piacere. Sì, magari poi fanno pure i rapinatori extra, diciamo, no? No. Sicuro, ti tieni impegnato, no? Un lavoro ti tiene impegnato, questo tipo di lavoro. Ma stai là fermo, comunque, vabbè, abusivi. Vabbè, ciao Pietro, saluti. Saluti. Ciao. Saluti. Arrivederci. Poltrini, scusami, sei una brava ragazza. Poltrini, sei un'amica dei cristiani ed è morta. Intervengano i commessi. Poltrini ed è morta. La Zanzara. Cruciasi una volta, latrina. Ma quel coglione di Parenzo che mi viene a dire nessuno mi tocchi la corrida, che è una grande tradizione popolare. No, io non sono vegano o vegetariano, ma secondo lui infilzare un toro, lasciarlo morire agonizzante è una grande tradizione popolare. Vedo che tanto lui parla di democrazia, in Inghilterra la caccia alla volpe è stata abolita. Dai coglione. Corrida è qualcosa di allucinante, è un esempio gratuito di violenza pubblica sugli animali, ma sulla vita in generale. Portare un toro così all'estremo della sofferenza solo per spettacolo lo trovo non degno di una società civile. Ragazzi, ma come si fa a pensare che la corrida sia qualcosa di incivile? Cioè, è incredibile. È una. Tant'è che la morte di un torero, incredibilmente, è la dimostrazione che non c'è niente di finto, no? È di scontato, cioè, soprattutto. Cioè, se ogni tanto muore un torero, ovviamente certo. Mi dispiace, non è che esulto come fanno quei lavoro, coglioni, però il suo lavoro si assume un rischio. L'ha scelto lui poi di farlo, soprattutto. Assolutamente. Guadagnando tanti soldi. Come il ladro che va a rubare, la stessa cosa, no? Uno può sparare. È un po' eccessivo come il suo solito, questo. Mi scusi, dottor Parenzo, però, che differenza. Sembra una corrida è una grande tradizione popolare dove c'è un signore che guadagna come il ladro tanti si assume un milioni rischio di euro per fare il toreador. Non credo che guadagni milioni di euro. Guadagnano tantissimi soldi, guadagnano mezzo milione di euro, un milione di euro. Certo, sono talmente pochi quelli. Fai tu il ma non toreador. Credo che guadagnino milioni di euro. Imbecille di Donato da Varese o di quell'altro che si chiama Mauro. Da Pordenone. Non mi ricordo. Non so chi sia. Ma Donato da Varese a fare il torero lì. Vediamo cosa sa fare. Altro che, è una professione che devi saper fare. A prescindere dal guadagno, il problema non è quello. Il problema c'è anche un grandissimo guadagno, sì, vai a vedere. Il problema è che come se tu vai, e il rischio che tu ti assumi facendo un mestiere, se tu vai a rapinare, ti assumi il rischio di essere sparato. Quello per necessità se lo tu, fa, quell'altro c'è anche la gloria, se no? Tu del vai, torero. Certo, ma il rischio che ti assumi è lo stesso. Se tu fai. Vai a fare la corrida, ti assumi il rischio che uno ti pidi per le corna. Comunque, la follia è questa: che qualcuno pensa di abolire questa cosa. O comunque la follia è chi esulta per la morte di un toreador. In Italia, a proposito di questioni animaliste, c'è chi vuole abolire i circhi. O comunque togliere gli animali dai circhi. Comunque, Eric Pons è il torero, non so se si dice così, è il torero più pagato al mondo, tanto per dire. C'è un articolo che e adesso te lo dico subito. No, ma non milioni di euro. In cima alla lista annuale dei torerei più pagati nel 2014. Adesso te lo dico, aspetta un ma attimo. Ma non milioni di euro, è impossibile. Adesso stai cercando, stai googolando come al solito. Sì. Ma non è. 82 milioni di dollari. 82 milioni di dollari tra maggio 2016 e maggio 2017. Ma figura 82 milioni, ma che sei impazzito? 82 milioni di dollari. dollari. Ma che cazzo, è impossibile, dai, hai letto nel male. Nel 2014. Hai letto male, 82.000 euro forse. Secondo la lista di People with Money di lunedì 19 giugno, Pons è il più pagato torero al mondo grazie a sorprendenti guadagni di 82 milioni di dollari tra maggio 2016 e maggio 2017. Vaffanculo, io non sono né un ex fascista né un animalista, ma che crepino tutti i toreri incoronati dai tori. Vaffanculo, stronzi. Ecco, un altro cretino, va. Un altro cretino. Comunque, allora, vai a vedere, chi questo vuole eliminare, chi vuole, sì, chi vuole eliminare People with Money, chi vuole eliminare gli animali dai circhi è un cretino. È un cretino assoluto. Siccome adesso c'è una discussione in Parlamento, io sono assolutamente dalla parte dei circhi, assolutamente dalla parte di chi lavora nel circo. C'è gente che vuole eliminare gli animali dal circo. Non può esistere un circo senza animali. Sì, in alcuni paesi c'è. Io sono a favore dei circhi, non rompete i coglioni. C'è gente che esulta per il fatto che il Parlamento forse approverà una legge in cui gli animali saranno tolti dal circo. Viva i circhi, avanti tutta, resisteremo, vai. Vittorio da Roma, vai Vittorio. Sì, dimmi, pronto? Dimmi Vittorio, dimmi. Scusami, volevo una domanda molto semplice, sì. Una confessione. Sì, dimmi. Volevo capire esattamente, sì. Noi napoletani, sì. Cosa in passato sei stato bullizzato a scuola, sì. Sei stato con roba vecchia, domande vecchie, Voglio dire, ieri sera parli con Buchini e chiaramente cosa dici che hanno esultato i napoletani? Non hanno esultato soltanto i napoletani. Assolutamente no, hanno esultato tutti. Ma lui ha parlato di Napoli, non io. Ma soprattutto a Napoli l'esultanza è più visibile. A Napoli l'esultanza è più visibile, no? Come i parcheggiatori abusivi che a Roma, io vivo a Roma da anni. Diciamo sono meno coloriti, non sono 1700 come a Napoli, però, non sono 1700. Non sono guarda, ovviamente hai intervistato una persona che è chiaro. Ma qual è il problema? Ti dà fastidio? Ti dà fastidio che si parli dei mali di Napoli? Qual è il problema? No, dei mali di Napoli. Guarda, i mali di Napoli però sono comuni, voglio dire, il fatto di essere comuni per, non è così. Comuni non sono, è così. Sono molto, no, quelli che però alcuni più sono comuni, alcuni sono comuni, certamente alcuni sono comuni a tutta Italia, dall'altra parte. Non sono ti ha chiamato subito dopo. Diciamo che è una specialità, è una specialità. Da Palermo, ti ha chiamato assolutamente, infatti sto dicendo il sud. Ho dato quell'esempio, se vai a Bari è così. Assolutamente. Tu vivi a Roma, se è vero o no? No, sono vivo a Milano, non esistono parcheggiatori abusivi. Per fortuna non esistono. Al nord non esistono. A Roma esisteranno pure, se qualcuno chiamerà dicendo esistono anche a Torino. Certo, esisteranno. No, diciamo che la diffusione è capillare. Se tu un giorno vieni a Roma. Guarda, amico mio, non è che un giorno vivo a Roma. Io davanti alla questura, ti dico un episodio così capisci che non ho nulla di non c'è nessun pregiudizio. Aspetta, io non voglio difendere i parcheggiatori. Mi fai raccontare sta cosa o no? Mi fai raccontare sta cosa o no? Allora, di fronte a un liceo di Roma che si chiama Visconti, in piazza del Collegio Romano a Roma, di fronte cioè alla polizia, alla questura, per anni, quando io andavo a scuola e oltre, quando io facevo l'università, c'era un parcheggiatore abusivo cagliaritano che aveva tutto, che era completamente ricoperto, forse c'è ancora, non lo so, non credo, completamente ricoperto di chiavi. Cioè aveva tutte le chiavi addosso, ti giuro. È uno che non solo faceva... magari anche qualcuno di qualcuno che lavorava lì in questura. Ma probabilmente, ma assolutamente, non solo era tollerato dalla polizia, ma era anche uno che faceva il famoso picchetto, cioè dire ti permetteva di scommettere in nero. Quando ancora non esisteva ottimo. Il gioco, le parti integrare perché magari la quota per cui della non è che stai, cioè so tutto, no, non ti preoccupare. Però, dire, è tutto, però tu hai proprio questa passione, sì, ma... è una passione quella che tu hai per i napoletani. Scusami Vittorio, ma la specialità è questa. Pubblica. Scusami Vittorio, Lorenzo, no, non c'è stato. Tu che sei lì con lui. Nessun trauma, non ho subito nessun trauma. Qual è il trauma che ha subito? Se tu non lo vuoi raccontare, non so. E lui se pensa che dire, sì, ma parla Vittorio se non ci fai capire bene, però non riesco a capire, le assicuro che conosco da tantissimi anni Cruciani, non c'è nessun trauma, è così dalla nascita, quindi non c'è. Comunque Vittorio, il punto fondamentale è un altro. Io ho detto un'altra cosa, ho detto esiste addirittura un sindacato dei parcheggiatori abusivi, è evidente che i parcheggiatori abusivi sono ovunque. Perdonami, diciamo che 1700 è un numero molto napoletano, no? Citate costituzionalisti intervistando la persona in maniera inopportuna e inappropriata per prenderlo per il culo. Ah, inopportuna e inappropriata. Tu stai dicendo che noi intervistiamo un costituzionalista? No, citare il costituzionalista. Ma cosa c'entra? Mentre stai parlando di altro. Allora, il sindacalista, scusami. È una roba incredibile. Questo qua ci sta dicendo come dobbiamo fare l'intervista a un parcheggiatore abusivo di Napoli. No, adesso questo mi pare un po' eccessivo, amico mio. Sindacalista. Dai, è qualcuno. Su. è qualcuno che chiaramente aiuterà, cioè perché l'ha detto. Ma tu la semplificazione giornalistica, però, la riduzione delle parole, la conosci o no come operazione? Oppure te la devo spiegare? Non ho capito. Ma io non sono quando ti dico, ma quando ti dico, sì, ma quando ti dico sindacalista, quando ti dico sindacalista, sì, d'accordo, quando ti dico sindacalista dei parcheggiatori abusivi, e poi basta perché ci siamo già rotti i coglioni, cioè sindacalista dei parcheggiatori abusivi significa uno che vuole rappresentare le loro ragioni, non che ci sia un sindacato, magari ci sarà pure un sindacato ufficiale dei parcheggiatori abusivi, capito o no? Lo capisci o no che non c'è bisogno di formalismi? Ciao, Claudio da Bari. No. Claudio. Pronto? Dimmi, Claudio, dimmi. Sì, vorrei avere una richiesta, sì, una domanda per Giuseppe Cruciani. Dimmi, dimmi, caro, dimmi. Da anni tu sei il paladino contro tutte le ipocrisie. Ma dipende, adesso mi sembra esagerato. Hai raccontato di essere etichette, andato... Le etichette non mi piacciono. Sì, comunque. Però comunque hai raccontato di essere andato per bordelli, che ogni tanto sì, gommi nelle mutande, può succedere. Sì, più o meno adesso stai riducendo a burletta questa cosa, però va bene. Alla, sì, fine, alla fine il tema di ogni trasmissione, lo squirting, lo stai portando avanti da 3 mesi. Due mesi. Solo due? Vabbè. Sì, hai problemi da questo punto di vista? No, non ho problemi, perché avevo questa richiesta. Tu qual riesci è la richiesta? A infrangere l'ultima ipocrisia. Guarda che quello che, siccome ci ho scritto sotto, vorrei chiedere a Cruciani quanto guadagna. Ecco, esatto, cioè, vorrei che tu sei in ritardo, però sei in ritardo. L'ho già detto mille volte, non mi pare una... Ma no, sei già... non lo so, non lo... Ma qual è il problema? Ma non mi ricordo bene esattamente, ogni anno può variare tra i 200, 230, 240, 300, 800, 500, dipende dagli anni. 800.000 euro? No. Sto scherzando, ovviamente, sto scherzando. Dipende dagli anni, sempre tra i 200 e i 250. Ma non l'avevi mai rivelato? Ma chi te l'ha detto? Arriva molto tardi, purtroppo, tardi. Ma no, perché male. Ti ho chiamato qualche anno fa e mi hai mandato a fare in culo. Ma no, ma assolutamente no. Su questo, può essere su che questo lei lo meritasse. Non lo so, quel giorno lì magari mi andava di mandarti a fare in culo. Chiaro? Va bene, va cioè, bene. Avevo va questo bene. Tipo di prurito. Non lo so, non mi ricordo, Claudio, scusami. L'unica cosa che ti posso dire è questa qua, ma dipende dagli anni. Poi quest'anno, se vuoi un ragguaglio, quando farò la dichiarazione dei redditi, fra poco te lo dirò. Non ti avevo sentito prima. Ma io sono contento di quello che guadagno, sono contento. Felice per te, perché ma no, ma io penso che guadagno tanti soldi, penso di guadagnare tanti soldi per quello che faccio, non so se sono meritati o no, penso sono strameritati. No, penso, ma non lo so, ma non mi interessa di saperlo. Soprattutto ti dico una cosa su cui Parenzo può sicuramente concordare. A me non me ne frega un cazzo dei soldi, questo sì, è questo il punto. È stravero. Questo è cioè vero. Non me ne frega nulla, sì, niente, purtroppo niente. Posso concordare. Dai, lo dici soltanto perché ce li hai, ovviamente. No, ti posso assicurare, ti assicuro che purtroppo non me ne frega, mentre i soldi è un problema di chi non li ha, solitamente più ne no, ha, ma guardi, non ha nessuna, avendo una vita quasi monacale, appunto, a parte perché appunto a parte quando va ogni tanto a prostitute, ma senza spendere grandi soldi, ma poi mangia sempre in posti osceni, osterie, a casa nel frigorifero non c'è mai niente, cioè non vizi, ha vizi. Non, ho, non mi drogo, no, oddio, non ha vizi. Le case belle non mi piacciono, cioè, non ha una i vestiti, l'acqua la usa poco, una zona brutta di Milano, no, però molto normale, molto modesta, no, ti posso magari, Claudio, no? Ti posso no, assicurare. Ma ti assicuro che non è uno. Dai. Claudio, ti posso assicurare. Poi questo te lo dico cioè, veramente tra con i il cuore. Due, il più vizioso, volendo, sono davvero io. Adesso cioè, Claudio, ti posso assicurare. Capito, ti c'è posso, anche il Claudio, filippino portatile. No, come dici, scusi, non ho capito. C'hai il filippino portatile. Questo non è male. Sì, certo, il filippino. Ciao, Claudio. Sicuro. Ciao, Giuseppe. Salute. Allora, sto calma, sentendo Parenzo si diventa razzisti. Chi c'è, Cruciani? Ah, i fenomeni, i grandi fenomeni, bravi, complimenti. Che vogliamo fare, parolacce? Vogliamo fare, che vogliamo fare? Quando una persona del pubblico chiama e dice buonasera, le fa un complimento, non lo deve trattare male. Ma hai fatto un cazzare, non sei buona, una persona ti tratta bene e voi ancora una volta arroganti. Se parla di fregna e Parenzo vuole far filippino in un sassetto un attimo, vattene a qualcuno al bagno, no? Hai capito, mo? Hai capito, mone? Hai capito, mone? Dottore, un cazzo! La zanzara. Da raga, ma quanto cazzo è inferiore Mauro da Mantova rispetto a Donato da Varese? Cioè, sono proprio due categorie diverse. Sarebbe come paragonare, boh, un peso piuma contro l'incredibile Hulk. Gli è superiore in dialettica, gli è superiore in carisma, gli è superiore in simpatia, gli è superiore in tutto. Mauro da Mantova, assolutamente loser nei confronti del mitico, epico Donatone da Varese. Mauro da Mantova. La zanzara. A Parenzo, a coglione, se fai parlare, fammi parlare. Allora, è facile parlare lì col culo seduto sulla sedia, tra parentesi, chiacchierato come il tuo roscio che non sei altro. È facile manganellare, manganellate, quando tu c'hai le tue chiappe sedute al calduccio, tra parentesi, chiacchierate, ma questo è un tuo problema, non è mio. A noi ci piace la patata. Sono le 11:30 di sera, sto rientrando a casa e le strade pullulano di trans e puttane. Ognuno di loro ha almeno un cliente. Questa è la vera Italia, l'Italia vera. Avete capito? Voi della maggioranza silenziosa? Cruciani, sono in scooter, ho appena visto un figo da paura su un R8, mi sono avvicinata, ho allungato l'orecchio per fare la prova del 9 e niente, stavo ascoltando RDS, che schifo. Beh, adesso che schifo, no? Perché l'Italia dice di RDS, anzi, se la prendono, non l'ho detto io, l'ha detto questa, no, qua. Appunto, tra l'altro, ma mi sembra, anzi, mi sembra discriminante, cioè voglio dire, un maschio che ascolta la zanzara, lo dico alle donne, ma lasciatelo, sì. lasciatelo subito. Senti, ho ripreso in mano un vecchio libro. Aia. È un vecchio libro che non consultavo da tempo, l'altro giorno l'ho ripreso in mano, ti leggo un passo. Sai che libro sto leggendo io adesso? No, aspetta. Il prigioniero di Salò, Mussolini, la tragedia italiana del 1943-45 dello storico Mimmo Franzinelli. Aspetta, l'altra notte l'ho portata su per compassione e indovina un po'. Aspetta, no, Sero, non fammi recitare bene, però. Scusi. Dai, l'altra notte l'ho portata su per compassione e indovina un po' cosa aveva combinato quella troia svitata. Se l'era rasata, nemmeno più un pelo sopra. Hai mai avuto una donna che si è rasata la fregna? È repellente, no? E anche buffo, come dire, pazzesco. Non sembra nemmeno più fregna. Pare un'ostrica morta o roba del genere. Gliela facevo tenere aperta e ci mandavo sopra la luce. Avresti dovuto vedermi, era comico. Mi ci misi con tanto impegno che m'ero completamente scordato di lei. In vita mia non ho guardato una fica con tanta serietà. Quasi che non ne avessi mai vista un'altra prima. E quanto più la guardavo, tanto meno mi diventava interessante. Madonna. Basti questo, dai, fai ridere. Basti questo a dimostrarti che non c'è proprio dentro nulla, specialmente quando l'hai rasata. Senti qua, è il pelo che te la rende misteriosa. Dottore, vino bianco, fresco, fresco, blondo. Ma vaffanculo, Parenzo. La fregna è fregna, mica ricce te castegna. Ecco perché una statua ti lascia freddo. Solo una volta ho visto. Mi fai distrarre, capito? Ero in trance, mi fai distrarre con sto filippino di merda. Sermonti sei. Ma chi sei? Sermonti. Ecco perché una statua ti lascia freddo. Solo una volta ho visto una fica vera in una statua, era di Rodin. Vai a vederla una volta o l'altra. Tieni le gambe spalancate. Non credo che avesse la testa. Fica e basta, come si suol dire. Gesù era orrenda. Il fatto è che sembrano tutte uguali. Vabbè, Harry Miller, Tropico del Cancro. Amico mio, Giuseppe, ma tu lo sai che è tornato di moda il pelo? Ecco l'altro, che non è Harry Miller, però. Allora, ragazzi, torniamo seri, perché abbiamo detto, non so quando, durante la trasmissione, del suicidio di Marco Prato, uno degli assassini di Luca Varani. Il padre, voglio capire dal padre qual è la sensazione oggi. Uno degli assassini del figlio di Luca Varani, il padre si chiama Giuseppe come me, si è suicidato in carcere. L'altro ha preso 30 anni, vergogna. Con il rito abbreviato, Giuseppe Varani. Pronto? Sì, buonasera, signor Giuseppe. Dica. Mi scusi, buonasera, mi chiamo Cruciani, sono un giornalista. Buonasera. Ho capito, Cruciani chi è? Quello della zanzara? Sì, buonasera. Che serve? No, volevo sapere da lei le sue sensazioni dopo quello che è successo. E provo chiaramente la stessa cosa, non proprio la stessa perché dico una bugia, però chiaramente un po' di dispiacere, non di dolore, perché c'ho il dolore di mio figlio, quello non si cambia con nessuno, giusto? Certo, beh, figuriamoci. Con quello come è passato, però dispiacere per un ragazzo che muore così, in quella maniera, non merita manco il peggio delinquente del mondo, voglio dire, no? Una morte così, giusto? Certo, lui si proclama innocente, almeno da quello che si legge nelle ultime cose che ha scritto. È giusto che si proclama innocente, perché chiaramente chi viene accusato si difende, e questo è il discorso. Tra l'uno e l'altro si sono sempre difesi, scaricato barile e tutto quanto, però si sa che dall'inizio hanno partecipato in tutte e due al festino, lo hanno creato loro. Luca è stata una vittima, perché al posto di Luca ci poteva essere, come si sa, qualche altra persona. Il fatto lo comprano loro, quelle modalità, in quel modo, quel festino l'hanno iniziato loro e finito loro. Con la morte di Prato, tragica, drammatica, manca secondo lei ancora un pezzo di verità oppure no? Beh, questo chiaramente stavamo andando, il processo si può dire che è stato iniziato solo da doveva ancora avvenire il vero processo, perché sì. Per due volte hanno rinviato per sciopero degli avvocati penalisti, sì. Il processo due volte, certo. Quindi non è che c'è stato un dibattito, perché su un dibattito su un processo per rito abbreviato, voglio dire, la vittima o la parte della vittima c'ha poco da ribattere, voglio dire. Dunque capito? Manca ancora un pezzo di verità, di racconto. Manca un pezzo di verità, ma non scrivo. No, manca, allora diciamo che manca tre quarti del processo, ma la verità può essere pure stata pure già. Cioè, voglio dire, non si può dire questo. No, certo. Non è manca la verità, ma comunque io gli dico solo questo: che hanno partecipato tutte e due. Quindi se uno non gli stava bene, diceva no amico, io ti lascio, io me ne vado, oppure se la casa è mia, no, vattene, perché qui queste cose non si fanno. Quindi hanno iniziato tutte e due, e tutte e due hanno finito, e tutte e due sono colpiti. Restano 30 anni per Fofo. Lei considera ancora troppo bassa questa pena? Penso di sì, insomma. Meriterebbe l'ergastolo pieno? Insomma. Anche pure le modalità, come hanno ucciso, la motivazione. Cosa si aspetta ancora lei? Sono intrappolato, sono stati due insieme, quindi deve considerare tutte queste cose. Come hanno dato l'ergastolo a precedentemente questi periodi, senza essere un omicidio come quello di Luca, che è un omicidio definito, un omicidio centenario per la brutalità che ci ha avuto, sì, sì. Ha capito? Sì, quello che gli hanno fatto, sì. Allora non riesco a capire come è stato tolto la premeditazione, sì. Ed è stato dato 30 anni. Dunque, ho capito gli altri omicidi non crudeli, magari c'era un movente, non per divertimento, voglio dire, o di sadismo, non riesco a capire, è stato l'ergastolo. E io dico questo e poi chiudo. Sì, Questo, se non viene dato, perché io non mollo, non viene dato l'omicidio, sì. Quelli che hanno fatto l'omicidio su Luca Varani, o se non gli si ridà la premeditazione, che uno la può trovare, sì. Dove gli pare a lui nel fatto che hanno compiuto, sì. Non si daranno più ergastoli. Si aspetta l'ergastolo l'ergastolo per Fofo? Per me è 30 anni e poi vanno a chiedere qualche altra cosa, mi pare proprio una cosa. Cioè, potrebbe trovarsi libero, potrebbe tornare anche qualche sconto di pena durante l'anno. Dico, ma che, mi ha sfruciato la macchina a questo punto? Potrebbe tornare a quello che hanno fatto. Qui hanno sventrato un ragazzo, gli hanno rotto i denti, gli hanno tagliato la gola per non farlo gridare, in modo, sì. Che non si poteva difendere per gridare, gli hanno rotto le mani per non farlo difendere, gli hanno rotto le mani col martello, gli hanno sfornato il cranio con la col martello dietro la testa. Cioè, ma dico, ma dove passano queste cose? È tutto scritto. Come si fa a non dare un ergastolo? La crudeltà, che drogato, certo, dico drogato, certo. Ma è un aggravante, no? Assolutamente. Oh. Senta un attimo, ma secondo lei perché si è suicidato Prato? Ma io parlo di quello che so io, non posso parlare di quell'altro, di quello che è avvenuto. No, ma secondo lei si era pentito, stava male oppure no? Non si era mai pentito? Io pentimento non l'ho avuto di nessuno e manco li ascoltavo, se è per questo. Perché ripeto, uno pentito agisce in un altro modo, non svincola, non cosa, non racconta storie, sono stato io, sono stato te. o trallazza, come si dice a Roma. Il partito si rinchiude in se stesso, accetta tutte le colpe, manco si difende, se va a fare 10, 20 anni e poi chiede perdono. È vero che sua moglie si è messa a piangere quando ha saputo della morte di Prato? Ma lei chi ha detto? Ho letto. È la verità, ma mica è una vergogna? Ah no, assolutamente, figuriamoci, cioè, assolutamente no. Certo, anche io mi è dispiaciuto perché non si può morire in quella maniera, no? Barani, grazie, buona giornata. Io continuo a trovare incredibile che uno abbia preso solo 30 anni per un omicidio del genere. Tu sarà, per te sarà normale, il rito abbreviato. Per me uno il rito abbreviato prevede proprio che ci sia uno sconto di pena, perché tu stai dicendo una cosa formale, prendi posizione, tempo allo no? Stato. Prendo ma il padre di Barani ha ragione quando dice che è una vergogna che uno certo, che ha ammazzato in quel modo piglia 30 anni. Prendo dai. Posizione a favore del rito abbreviato. Ma chi che se ne frega del rito abbreviato? No, per certi delitti no. Cioè delitti di questo tipo no, con premeditazione. Evidentemente allora, è stata tolta la premeditazione. Bisognerebbe cambiare la legge, allora bisognerebbe fare. Vai, insomma, Davide da Verona, vai Davide. Vai. Lo stato di diritto è questo. Sì, però so che voi volete. Ma bisogna cambiare alcune cose. So che è una parola che non ti piace. Ma no, ma alcune cose sono troppo a vantaggio dei delinquenti. Troppo a vantaggio dei delinquenti. Ma quale vantaggio dei delinquenti? Vorresti sospendere lo stato di diritto in alcuni casi, come quelle bestie inumane Davide. Chiamano in questa cloaca. Davide Verona, vai. La gente che ascolta più avanti. Favore di Parenzo per una volta. No, ma non c'è bisogno. Guarda, la gente mi abbraccia quando vado per dice grazie. Il paese reale è questo che è fuori, non quello che telefona all'800-24-0024. Esatto, hai perfettamente ragione. Certo. Infatti, in mezzo al tuo intervento in difesa di Monti, che hai detto che è il più bravo, ma io ci capisco. È stato un grande, uno che ha fatto delle cose sicuramente impopolari, ma grazie a quelle cose oggi stiamo meglio. Infatti voglio spiegare che io capisco anche perché l'hai detto, perché è un tuo collega. Cioè? Che collega? Cioè, aspetta, fammi sentire, in che senso? No, è un collega di Parenzo, perché diciamo che il signor Monti non lavorava alla Goldman Sachs, giusto? Allora? Non lo so se ha lavorato, immagino di sì, allora? No, c'è lavorato. E allora? E, logicamente queste banche americane sioniste, che è un po'... tu dici un collega di sionista. Certo. Essendo dipendente del sionismo mondiale Monti, per questo è collega di Parenzo, secondo te. Esatto, interessante questa cosa. È un collega, diciamo, è superiore. Dunque, per te Monti, per te Monti è un criminale, mi pare di capire che per te Monti è un criminale. Oddio, ce ne sarebbero anche tanti oltre a Monti criminali ultimamente, a quanto si veda come l'ha portato però... in Italia. Comunque Monti può essere sì considerato anche lui un criminale, perché la sua parte l'ha fatta. Possiamo segnalare il nome di questa persona al soldo dei sionisti criminali del mondo, del governo sionista mondiale, dai. Loro che stanno comandando, se voi dite di no, che non è vero, ma benissimo, dai, guarda amico mio, ma tu pensi veramente che comandino i sionisti nel mondo, le banche ebraiche nel mondo comandate dagli ebrei? Ma veramente pensi questo? Lo sto pensando, sì. Fermo. Sono un puttaniere e me ne vanto. Sono un puttaniere e me ne vanto. Ciao amico mio, ti amo. Ciao. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. We are liars, we are thieves. Cruciani, ho un problema. Sono combattuto sull'argomento della mia tesina di maturità. Potrei farla sulla crisi del 29, sulla postmodernità, ma a me ispira troppo lo squirting. La settimana scorsa ho fatto ascoltare per la prima volta La Zanzara alla mia ragazza. Ieri sera mi manda questo messaggio: da stamattina ho mangiato solo frutta e bevuto acqua, tè e caffè. Anche a pranzo una quantità assurda di frutta. Sentivo il bisogno di depurarmi e cagare. Ho cagato 3 volte grazie ai kiwi e alle prugne. Stasera mangerò gazpacho e insalata. PS, i miei piedi tutto sommato a Cruciani piacerebbero molto. Più che al top, qua siamo nella merda. David, ma non ti sei mai chiesto perché le iniziali del tuo nome sono come quelle di Double Penetration? With the moonlight, with the cloud. Parenzo, quando vuoi. Parenzo, io spero che prima o poi tu accetterai tutte queste proposte. Nella realtà dico a queste simpatiche gentili signore, sì, sì, che sei impegnato, sei impegnato. Natania, tu sei una persona molto aperta, una persona molto liberale, molto più di David, molto più di David. Sono sicuro, lo intuisco. Comunque dagli via libera, sarebbe un atto di grande generosità, se vuoi anche di grande liberalità, un gesto importante. No, voglio dire a queste due signorine che comunque l'approccio non può essere questo, voce straordinaria. Sì, ma la maggioranza silenziosa non approccia così a queste questioni. Allora, certo, c'è un cretino, però, che qualora vi fosse la cavigliera. Certo però che al netto del fatto che la maggioranza silenziosa porta cielo, la cavigliera. Certo però che qualora vi fosse la cavigliera, beh, amico mio, la musica cambia. Ti pare normale che Salvorina, il figlio di Totorina, ha postato su Facebook una foto che gli è stata mandata, dice lui, da alcuni amici romeni a Tenerife? Questi amici romeni sarebbero andati in un ristorante che si chiama Martini, e nella parete di questo ristorante, oltre alle foto di Baggio e di Cannavaro che alza la Coppa del Mondo nel 2006, c'è anche Totò Riina, come italiani vergogna. Illustri come Baggio e Cannavaro, vergogna, ristorante Martini. Vergogna. Nei commenti sotto il post del signor Riina c'è uno che dice: Totò Riina, sei il numero uno. Pronto? Sì, Maurizio. Sì? Beh, grande zio Totò, Con chi parlo? Sì, buongiorno, chiamo da Milano, salve. Eccoci. Salve. No, ho letto, tu hai scritto grande zio Totò numero uno al mondo. Sì. Sì, ma veramente consideri Totò Riina numero uno al mondo? No, assolutamente. E perché l'hai scritto allora? Così, perché mi andava. Così. Beh, no, dai, uno, Totò Riina numero uno al mondo, ma bisogna rivendicarle certe cose. È un numero uno al mondo perché era stato pubblicato dove si trova l'immagine in un bar estero. Beh, d'accordo, certo, quindi? Però uno che scrive è grande zio Totò numero uno al mondo significa... E poi si dà alla fuga l'ammiratore di Totò Riina. Manco il coraggio, vaffanculo, va. Comunque, lo sai che ho scoperto che quando vengono fuori queste cose che riguardano la mafia e l'andrangheta, c'è veramente un sacco di gente, sì, che non so perché, per spirito di... non so per quale tipo di reazione, cioè si mette dalla parte dei mafiosi. Cioè è incredibile questa roba qua, è incredibile. Non riesco a capire come cazzo è possibile. So. Chi è che mi rompe i coglioni? Io voglio capire, sconosciuto, chi è che mi rompe i coglioni? Rispondi. Vincenzo da Palermo, vai Vincenzo. Cruciani, siamo dimmi. Al top. Dimmi. Allora, ascoltami, volevo fare i complimenti alla signora Antonietta per la grande telefonata che ha fatto insieme a te, perché dovremmo avere tantissime di queste donne che veramente dichiarano tutto quello che è la vita sessuale nella loro vita. E allora? Allora, io ho fatto il badante per tanti anni. Sì, badante che vuol dire, no? Che il maggiordomo. Badavo i nonnini in ospedale, facevo le notti. E allora? E allora, ho avuto il piacere di avere un nonnino di 92 anni. La mattina, quando l'ho portato in bagno per lavarlo, sì, ho trovato sotto le mutande un pene lungo e dritto, a 92 anni. E ho chiesto, dicendo è male per me, in siciliano me l'ha detto, dice è normale per me, dice, avere questa sensazione. Sì. L'ho pulito, l'ho sistemato, l'ho rimesso a letto, non sei free, ho fatto i complimenti. Scusi, che storia è questa? Che racconto è questo qui, scusi? Non lo so, non ho capito. Questo signore di 82 anni, non ho capito che cosa faceva. No, 92 anni. 92 anni, cosa faceva questo qua? Aveva un pene dritto ancora. A 92 anni, quando tu facevi il badante dove? In ospedale ero, ho fatto la notte in un ospedale. Boh. Sì, ma che c'entra? Non ho capito, cioè spiegami. Perché allora... volevo collegare il discorso della signora che aveva il marito che fino a 2 anni fa ancora trombava a 84 anni la donna. Quindi il marito aveva un'età già più avanzata, no? Penso. E allora? Come allora? Cruciale, lei da meravigliarsi a avere persone di questo genere. Quando la mattina al figlio gli raccontai la situazione, sai cosa mi disse praticamente? Dice, Vince, ma che ti devo dire? Che fino a pochi anni fa ancora andava di brutto. E vabbè, ragazzi, amico mio, però se c'è uno di 92 anni che ancora gli tira l'uccello, va benissimo, ma qual è il problema? Tu ci stai raccontando questo episodio per dire cosa? Che ancora si possono avere, si può avere, certo, attività sessuale a 90 certo, anni. Perché ancora ci sono persone che a quest'età ancora ne parlano bene, riescono ancora a vivere la sessualità. Vabbè. Io Cruciani, allora... devo dirti una cosa, scusami. Sì, dimmi. Io ho 55 anni. Sì, e allora... con te ho scoperto lo squirting. Bene, ottimo. Capisci? In che senso hai scoperto l'esistenza dello squirting? L'esistenza dello squirting, perché io non lo conoscevo in vita mia. Ho fatto tanto sesso in vita mia, ma non ho mai praticato la situazione con lo squirting addosso. Beh, questo è grave, questo è grave. Grave da parte mia, sì, però... Hai rimediato grazie alla zanzara, giusto? Ma tantissimo. E difatti ti dico a te, è una cosa che devi vincere per conto... La contrarietà di Parenzo, devi portare avanti sempre questa cosa, andare avanti, perché oggi fare sesso, oggi avere il sesso, sì, in testa è migliore della depressione, è migliore di tante, sì, altre cose che ti fanno stare male. Io posso essere d'accordo con lei. Io sono semplicemente... Come hai fatto a scoprire lo squirting? Non ho capito, spiegami. Allora, io ti ascolto tutte le sere. Sì, no, ho capito, ma come hai fatto a scoprire lo squirting dopo? Cioè dici, cazzo, esiste questo squirting? No, non l'ho scoperto ancora. Ancora niente, cioè, tu a 55 anni non sapevi cos'era lo squirting e soprattutto non c'è... Non hai fatto nulla fino adesso, non Bravo. Hai mai trovato una. Vabbè. No, sono sposato adesso da... E tua moglie che dice? 29... No, con mia moglie non ne parlo di queste cose. Non ascolta la zanzara tua moglie? No. E come fai, a farti squirtare adesso? No, non si fa. Non si fa, e che vuol dire non si fa? Non si fa. Non ma una volta fa, che lo sai, allora che ti serve se non lo sai? Lo sai, e basta. Crucia, è una cosa che... Amico mio, vabbè, ciao. Comunque ciao, sei al top, Crucia, continua così perché non ti fermare. Ti abbraccio, ciao. Ciao, ti abbraccio a te, ciao. Allora, un tizio mi scrive, è morto un torero? Dovrò aprire una bottiglia di champagne, Erio da Treviso. Che motivo c'è? Ah, non lo so, cioè. Torero Fandino, hai preso il trenino per l'aldilà. Fandino Suca, questo deve essere siciliano, eh. Pronto? Allora, Erio? Sì, allora dimmi una cosa, spiegami. Perché no, dici ascolta, suca? Perché dici suca? Spiegami. No, ascolta, perché, ti dico. Perché io sei mangio contento? La costata, mangio le salsicce, mangio tutto. Sì, però sì, quando sento che il torero, gli occhi del torero vengono riempiti di pece, per me è una cosa assurda, che vuol dire che veramente è una truffa nei confronti del toro. Ma per che me non cosa? Va bene. Ma non ho capito, ma questo qua è stato ucciso dal torero. Perché vuoi aprire una bottiglia di champagne? Spiegami, è stato ucciso dal toro. Perché vuoi esultare? Perché? Come se tu, cioè, a darmi pari, per me andrebbe anche bene la corrida. Ma che vuol dire a darmi pari? Ma non può essere a darmi pari, evidente, no? Ma che cazzo di ragionamento è? Molti animalisti dicono deve essere a darmi pari. Ma che vuoi che entri in campo dentro l'arena con senza le frecce, senza le armi, senza le spade, come cavolo si chiama? No, lui deve avere le sue cose, però a darmi pari, un'altra follia. Gli occhi devono essere a posto, lui deve essere a posto come la natura. Ma io non lo so, in alcuni momenti sicuramente saranno drogati, saranno quello che vuoi. Ma guarda che gli mettono la pece negli occhi. Ma d'accordo, e allora come mai in questo caso? Come mai in questo caso è morto, secondo te? Hanno sbagliato pozione, non gli hanno coperto perché, gli occhi? Sì. No, ha voluto strafare lui. E va bene, d'accordo, benissimo, sarà un duello impari, ma chi se ne frega, lo vediamo, quelli che vanno si divertono, qual è il problema? Che muore il toro? Morto un toro, se ne fanno altri 100. No, ma qual è il problema? Però, per me non è giusto. Vabbè, ma non è giusto. Ciao amico mio, ciao. Virginio Milano, vai. Ciao. Vai. Oh, il toro è stato poi impiccato come da tradizione. Sì, allora chi se ne frega che il toro, ragazzi, è stato impiccato? Ragazzi, tanti tori muoiono, ce ne saranno tanti altri che nascono. Chi se ne sbatte? Ma perché dovremmo appassionarci della sorte dei tori? Per me il toro non è come un essere umano, è un'altra roba. Virginio, vai. Allora, niente, sono un tassista. Ciao, Virginio. Ciao. A proposito degli abusivi, a Napoli ci sono quelli che si organizzano alla luce del sole. Qua a Milano, nel centro del cuore della grande città, sì, se volete farvi una passeggiata la sera all'Old Fashion o al Jazz Cavalli, dietro l'Arco della Pace, ci sono gli abusivi organizzati da non so chi, che non riescono a essere cacciati via né dai vigili né dalle forze dell'ordine. Ma certo, ma è chiaro che ci sono più abusivi anche a Milano di parcheggiatori, di notte, di nascosto in alcuni momenti, ma assolutamente, Cruciani, ma è normale, ma vanno cacciati pure quelli, vanno cacciati anche quelli. Ma certo, ma a Milano, nel cuore della grande città, la capitale morale d'Italia, hanno fatto una pista, i taxi, o ai privati per uscire in mezzo al bosco, sotto gli alberi, in mezzo allo sterrato, con dei cartelli finti, abusivi, messi lì e nessuno si accorge di niente. E sono lì da 2 anni. Sì, ma va bene, ma per carità, ma esistono casi di abusivismo e di mala gestione anche in altre città, nessuno dice questo. Ma è una cosa normale avere 1700 parcheggiatori abusivi rappresentati da un tizio, no, che ne parlano apertamente, in cui, no, dicono, vabbè, ma è questo il problema. Ma sarà diversa, ma è praticamente, no, un lavoro quello là. Però scusa, è più paradossale che qua a Milano, che è tutto regolare, perché comunque la città funziona. Vabbè, ma sono piccoli casi, dai, sono piccole, vabbè, cose, sono purtroppo piccoli, italiane, ascolta, dai, purtroppo italiane, dai. Se vai a farti una passeggiata e vedi che elementi ci sono, ti rendi conto, no, che, ma certo, non è un piccolo caso. Quelli sono lì e nessuno ha la forza di cacciarli via, te lo dico io. Va bene, ciao amico mio, ciao, ciao, ciao. Dino, ciao, Torino, ciao. Dino da Torino, vai. Pronto? Dimmi, dimmi caro, dimmi. Ciao Beppe, ciao David. Un ciao, altro dice, David, ma come fai a dire chi se ne frega? Sei di un'eredità inquietante. Non può essere torturato, testa di cazzo. Ma non dico torturato, che deve essere torturato. Non è torturato. Il toro muore, punto e basta, muore un toro. Chi se ne frega se muore un toro? Ragazzi, ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? È un toro che fa è un toro, quello, appunto, toro, hai detto tu, toro, è un toro, toro, non è una, toro, non è mia figlia, toro, non è tua figlia, non è un essere umano. Dio, non è uno dire? Che muore, non è il torere un essere umano che muore. No, ma è un toro. Vedete che il toro, avete mai visto i film di Almodóvar? Ma come si fa a pensare la Spagna senza questa grandissima tradizione sangria? Un altro che dice, io godo per la morte del torero, godo, no, da Dio, Gian Maria, ma da Parma, va, fa culo, va. Vai Antonio, dimmi chi è, no, Dino, sono Dino, Dino. Dino, dimmi. Sei mai stato, ciao, tu Cruciale, a vedere una corrida? Sì, una volta sono stato, non mi sono divertito particolarmente, no, ma chi se ne frega? No, ma quello neanch'io, figurati. Sono stato sfortunato, magari, dimmi, dai. Allora, niente, volevo solo parlare del problema Rom che c'è a Torino per l'ennesima volta. 20 giorni fa una ragazza rom di 21 anni fa il tracciato di marcia, arriva la moto e si schianta un ragazzo e muore. Sì. Questa scappa, la rincorrono, la beccano, la rinchiudono in carcere, oggi è riuscita a evadere. Sì, sì, incredibile, è un caso che è scoppiato a Torino oggi. Pazzesco. Allora, intanto, a parte i fuochi e i roghi tutti i giorni, perennemente tutti i giorni, con roghi continui a Torino, questa è la realtà. Lo segnaliamo subito alla redazione di Quinta Colonna. Lo segnaliamo subito alla redazione di Quinta Colonna. Ma possiamo dire chiaramente che i rom sono un problema per tutta l'Italia? Cioè, lo possiamo dire in maniera chiara che i campi rom e gli insediamenti rom in tutta Italia rappresentano un problema? Come fai a dire che rappresentano un problema? Sto sostituendo Belpietro dalla vostra parte. Beh, ma in modo molto dignitoso, mi pare. Capite, che hai imparato bene la lezione. Ma è ovvio che sono un problema. Ma adesso non possono essere un problema una piccola, piccolissima minoranza presente in alcune delle nostre città. Credimi, campi rom non gestibili, non gestiti a Torino, 3, non mi ricordo quanti sono. Non possono essere. Lì si chiudono, si trovano delle case popolari, mediatori culturali, si cominci. Però, come Davide, dire, ha fatto un patto di città. Questo sta portando all'esasperazione della gente. L'altra settimana hanno fatto una manifestazione Casa Pound, Forza Nuova e i parenti di questo poveretto, ecco, che è morto. Appunto, hanno bloccato la strada, hanno detto i zingari che era morta negata. Comunque il sindaco Appendino risolvesse questo problema, come ha promesso appunto, di farlo, bravo, come bravo, ha promesso di farlo l'altro sindaco Raggi, oggi indagata ufficialmente, comunque quello che ha fatto una cosa buona, ottima, ha presentato un piano delle proposte, fermo, dei soldi, fermo, ci ha detto lì, come fermo fare. Lì, sennò ci dicono parlate di fregna perché stanno parlando di cose serie. Devo chiudere, a domani. Sì, ciao. Buonasera e benvenuti dalla vostra parte. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. È una cubana rifatta, un chiavatone esagerato.